Massimo Brugnoli, da 10 anni circa mi occupo di legalità, mi occupo di mafie a livello sia internazionale che a livello locale. Ho pubblicato diversi articoli con riviste specializzate nei settori quali Antimafia Domina, Narcomafie, eccetera. Pensando a come introdurre questo incontro, stavo facendo delle riflessioni proprio in queste ore. Qualche tempo fa, nel mese di marzo, mi è capitato di fare un incontro in un liceo di Como con i ragazzi di un liceo e ho iniziato l'incontro facendo questa domanda. Secondo voi, se io dico che mafia, camorra, 'ndrangheta sono fenomeni che riguardano esclusivamente o quasi esclusivamente le regioni del sud Italia, secondo voi che cosa dico? Dico una cosa sensata oppure dico qualcos'altro? Un ragazzo di seconda, un ragazzo di 15 anni, mi ha detto no, dici una grandissima stupidaggine. Poi lui non ha utilizzato proprio il termine stupidaggine, ha utilizzato un altro termine, però la cosa mi ha fatto piacere perché è uno dei tanti segnali che riceviamo quotidianamente sul fatto che questo argomento sta entrando sempre di più, e voi oggi mi siete una conferma, nell'interesse dell'opinione pubblica anche qui a Nord. Solo che poi ho fatto un'altra considerazione, e infatti quella volta ho risposto così anche a quel ragazzo: sei più avanti tu, molto più avanti tu, rispetto a chi istituzionalmente dovrebbe avere l'onere di occuparsi di questi argomenti, e mi spiego meglio. Per esempio, nel gennaio del 2010, il prefetto di Milano, signor Gian Valerio Lombardi, di fronte alla commissione parlamentare antimafia, disse che sì, in Lombardia e specificamente a Milano esistono delle famiglie mafiose, però non è che si possa parlare esplicitamente di mafia. Esistono alcune famiglie, però una cosa che si chiama mafia esplicitamente non si può dire che esista. Negli stessi periodi, più o meno, ricordiamo i balbettamenti sul tema dell'ex sindaco di Milano, Letizia Moratti, che arrivò addirittura in una trasmissione televisiva a dichiarare che da noi parlare di mafia, insomma, queste cose qui da noi non possono succedere. Dichiarazioni che ricordano un po' i bei tempi che furono dell'ex sindaco Paolo Pillitteri, quando i tempi della Duomo Connection, che fu forse la prima vera grande inchiesta sulla mafia a Milano e Lombardia, un'inchiesta che arrivò a toccare addirittura a Palazzo Marino, dichiarò pubblicamente: la piovra a Milano, in realtà si tratta solo di semplicemente di favole, sono soltanto favole, sono proprio questo termine, questa parola. Sappiamo bene che la realtà è molto diversa. La mafia, la 'ndrangheta, la camorra nel nostro territorio ci sono in Lombardia e nel Comasco, e non solo da oggi. Noi pensiamo che, per esempio, uno dei più importanti boss della storia di Cosa Nostra, Luciano Ligio, fu arrestato già nel 1974 a Milano, in un appartamento di Viale dei Famosi. E la Commissione parlamentare antimafia dell'epoca, nel 1976, parlando di questo arresto, scrisse che ripercorrere il percorso di Luciano Ligio da Corleone a Milano, ricordiamoci che siamo a metà degli anni 70, significa ripercorrere il percorso di Cosa Nostra a livello globale negli ultimi 25 anni, cioè 25 anni nel 1975. Quindi fate un po' voi il calcolo da quanto tempo è presente questo fenomeno, di come si possa essere radicato nel nostro territorio in tutto questo arco di tempo. Non a caso, uno dei più bei libri sulla mafia e sulla 'ndrangheta in Lombardia che è uscito negli ultimi tempi è un libro di Mario Portanova, Giampiero Rossi e Franco Stefanoni, tre bravissimi giornalisti, e si intitola Mafia Milano, 60 anni di affari e delitti. Quindi sono 60 anni che questo fenomeno è purtroppo presente nella nostra regione. Per darvi un'idea di quanto possa essere radicato, già all'epoca dell'arresto di Luciano Ligio, tra i documenti sequestrati a Ligio era presente un biglietto con il numero di telefono riservato di tale Ugo De Luca, già banchiere legato a Michele Sindona e direttore all'epoca del Banco di Milano. Questo signore poi verrà prosciolto, però non riuscirà mai a giustificare a chi appartenessero le decine di miliardi di lire che andrebbero al portatore ritrovati in suo possesso. Vi racconto solo un aneddoto, poi lascerò più spazio possibile ai relatori che sono i veri protagonisti della giornata di oggi. Negli anni, sempre in quel periodo, attorno agli anni 70, c'era una criminalità non strana nel milanese, una criminalità legata a personaggi come Pallanzasca, Turatello, eccetera, sono sicuri che la maggior parte di voi li ha già sentiti nominare. Era molto pericolosa, folcloristica, da un certo punto di vista, anche se comunque facevo omicidi, rapine e quant'altro, eccetera, però già allora era in qualche modo sottomessa alla potenza della criminalità che veniva criminalità legata a Cosa Nostra e alla 'Ndrangheta. Vi racconto un aneddoto: c'era un certo personaggio, tale Vittorio Mangano, che era uno dei boss di Cosa Nostra più importanti presenti nel Nord Italia, e i balordi della Comasina legati a Pallanzasca ebbero la cattiva idea di andare a chiedere il pizzo alla proprietaria di una lavanderia amica di Vittorio Mangano. Questa signora rispose a questi delinquenti: sì, io i soldi ve li do, però fatemi un favore, andate a riscuotere dal signor Vittorio Mangano che alloggia all'hotel Duca di York. Ottenne tante scuse e la promessa di non essere mai più disturbato. Dopodiché, negli ultimi anni, come probabilmente saprete, anzi negli ultimi decenni ormai, la mafia più pericolosa al nord, in Lombardia e nel Comasco, è senza dubbio la 'Ndrangheta, più ancora che Cosa Nostra. C'è un processo in corso attualmente a Milano, il cosiddetto processo crimine infinito, che si sta occupando delle infiltrazioni della 'Ndrangheta nel nostro territorio. E oltre a questo processo, che è sicuramente quello più famoso, più conosciuto, negli ultimi anni sono state fatte però anche altre inchieste che fanno capire la pericolosità del fenomeno. Per esempio, l'inchiesta al processo Cerberus, che riguarda la famiglia dei Rocco Papalia nella zona di Corsico Cucinasco. La cosa impressionante di questo processo è che le vittime delle angherie e delle estorsioni della 'Ndrangheta di quella zona, chiamate a testimoniare a processo, si sono rifiutate di testimoniare contro gli imputati, che poi sono stati riconosciuti colpevoli, dicendo che sono bravissime persone, assolutamente non hanno nulla a che fare con queste vicende, rischiando conseguenze a livello personale proprio per la propria reticenza nei confronti della testimonianza verso questi personaggi. È un episodio fra tanti che ci fa capire che anche il clima a livello sociale deve cominciare a farci un pochino preoccupare, perché si parla di omertà al sud, ma purtroppo di omertà è il caso di cominciare a parlare anche al nord. Faccio un altro esempio: nella cosiddetta operazione Bad Boys, che ha avuto come oggetto la zona di, soprattutto il comune di Donate Pozzolo, attaccato all'aeroporto di Malpensa, durante questa operazione ha visto il coinvolgimento di delle famiglie della 'Ndrangheta che per oltre dieci anni hanno vessato con ogni genere di estorsione, ricatto, eccetera, buona parte della popolazione, e nessuno aveva il coraggio di andare a denunciare, nessuno ha mai denunciato nulla. Tutto questo è venuto alla luce perché un politico locale, un politico della Lega Nord, Modesto Verderio, ha raccolto le denunce ed è andato lui a denunciare per conto dei cittadini. Lo stesso Verderio in quel periodo poi ha organizzato una fiaccolata contro la 'Ndrangheta a cui parteciparono non moltissime persone, ma soprattutto nessuno del paese, nessuno di Donate Pozzolo. Vennero tutti da fuori. E per scendere più specificamente al nostro territorio, o Lecco, della nostra zona, è storicamente anche questa una delle zone più infiltrate dalla mafia e soprattutto dalla 'Ndrangheta. Negli anni 90 ci sono state delle inchieste molto importanti, qualcuno di voi probabilmente conoscerà, i cosiddetti processi di Wall Street, Countdown, Fiori di San Vito, che hanno messo in luce importanti penetrazioni della 'Ndrangheta nel Comasco. Abbiamo anche, io per esempio sono di Lomazzo, di fronte a casa mia, a meno di 10 metri dalla casa dove sono nato io, ci sono delle villette che sono sequestrate, sono state sequestrate a dei boss dell'Andrangheta appartenenti alla cosca dei Paviglianiti, legati alla potente famiglia regina dei De Stefano, proprio nell'ambito di quelle operazioni degli anni 90. È una cosa che proprio vivo a pochissimi metri da casa mia. Pochissimi mesi fa a Cermenate è stato inaugurato un centro che sorge in una villetta, in una costruzione sequestrata a degli appartenenti, a dei boss appartenenti all'Andrangheta. A pochi chilometri, soprattutto c'è l'Andrangheta presente nel territorio, ma non ci siamo fatti mancare niente. Per esempio, a pochi chilometri da qui, a Tradate, nel 1990 è stato ucciso il figlio di Raffaele Cutolo, Roberto Cutolo, proprio nell'ambito di uno scambio di favori tra le famiglie dell'Andrangheta residente in questa zona e la Camorra. Abbiamo quindi qui degli ospiti molto competenti riguardo a dei temi specifici che andremo a trattare oggi. Ve li presento, a partire dalla mia sinistra abbiamo Fabio Silva, cofondatore di Banca Etica, che ci parlerà di un tema molto importante, riguardante soprattutto l'economia e la finanza e i rapporti tra il mondo dell'economia e della finanza e le associazioni criminali. Abbiamo vicequestore della Polizia di Stato, Nunzio Trabace, che è qui soprattutto in veste di coordinatore per il Nord Italia dell'Agenzia Nazionale per la Destinazione dei Beni Sequestrati alla Criminalità Organizzata. Abbiamo Marco Di Girolamo, alla mia destra, segretario di Fillea CGL. Fillea è il segretario regionale, è il sindacato che si occupa in particolare di ciò che riguarda l'edilizia, per cui ci parlerà dei problemi riguardanti la legalità e l'occupazione delle cosche mafiose nei cantieri, soprattutto nei cantieri delle grandi opere, e un argomento anche questo molto delicato, pensando all'esito del 2015 in particolare, che si sta avvicinando. E abbiamo poi Paolo Moretti, giornalista professionista, giornalista della provincia, autore di uno dei più importanti libri che sono stati scritti sulle infiltrazioni mafiose nella nostra zona negli ultimi tempi, e questo intitola Mafia Padana. Lascio la parola a Fabio Silva, fondatore di Banca Etica. Io incontrai l'Andrangheta in particolare, un po' meno la mafia, alla fine degli anni 90, quando decidemmo come Banca Etica, dopo averla fondata, di dare una spinta soprattutto di riflessione tra quello che sono i meccanismi finanziari e l'Andrangheta stessa, e ebbi il compito di andare spesso in Calabria per queste cose. In particolare una delle mie prime dei miei primi incontri fu in un paese molto famoso che si chiama San Luca in Aspromonte, un paese ad alta densità, uso il termine mafioso, comunque lì è 'Ndrangheta, e mi ricordai la particolarità di essere invitato in una riunione come questa. Era, non ricordo più che giorno, ma erano verso le 4 del pomeriggio, era un sabato e doveva intervenire la cittadinanza. Entrai dentro in questa sala comunale, c'era una cinquantina di persone, la particolarità che il più vecchio avrà avuto 16 anni. Al momento non ci ho ripetuto molto, dopodiché cominciai a pensare, e chiedendo alla persona che mi aveva accompagnato, e pensate che per arrivare a San Luca io partii da Reggio Calabria, che è un centinaio di chilometri, abbiamo impiegato circa 6 ore, perché lui stesso, che era del posto, non si raccapezzava, cioè nel senso che cartelli che girano, non si riesce bene a capire. Beh, io tantomeno, ma la persona del posto diceva che era normale questa cosa. Mi spiegò che a quella riunione, siccome era inserita in un ciclo di interventi che noi stavamo facendo su appunto mafia e denaro, mafia e legalità, mafia e transazioni finanziarie, impedirono alle persone di venire, e siccome dietro c'era il patrocinio della regione, qualcuno doveva apparire, ha mandato soltanto ragazzini di 15-16 anni. Questo lo dico per quanto diceva lui prima, che il problema poi grosso di tipo culturale, che oggi forse qui noi testimoniamo in maniera diversa, ma è quello profondo che sta dietro tutto quella che è una mentalità, una cultura. Mi impressionò più lì che altri posti, perché lì capii profondamente come questa cosa, e soprattutto il tema di finanza e mafia, sarebbe stato molto arduo farlo passare. Tant'è comunque, abbiamo poi proceduto lo stesso a fare la nostra opera, quella di comunque parlare di queste cose. Comunque brevemente il mio intervento cercherò di farlo su tre cose. Innanzitutto mi interessa darvi qualche dato più generale. Ovvio che io parlerò pochissimo della realtà di Como, anche perché non ho i dati, però ci sono sicuramente delle persone molto più competenti di me. Alcuni dati più generali che però interessano, perché alcuni li conosciamo, altri no. Mi interessa anche rilevare brevemente quello che il fenomeno mafioso e dell'andrangheta causa a livello sociale, e poi la parte, questi alcuni dati, la parte un po' più consistente ma breve, è quello che penso e quello che tentiamo di fare come banca etica, non dico per arginare il fenomeno perché non lo argini, ma almeno dire una parola diversa, che è possibile poi che anche voi, se volete, potete farlo. Il fenomeno dell'andrangheta e della mafia passa su queste cose, dal punto di vista di quello che è la finanza. Finanza vale a dire il giro dei soldi. Tenete presente che oggi transitano nel mondo come transazioni finanziarie. Quando uso il termine transazioni finanziarie, significa operazioni che passano da banche, o comunque da SIM, o comunque da SGR, o comunque da istituti che operano nel campo della finanza. Sono transazioni che vanno da una parte all'altra del mondo, e oggi siamo circa sui 2.000 miliardi di dollari in un giorno soltanto. Quindi voi immaginate transazioni di questo tipo, che se l'Unione Europea e il Nord America decidesse di mettere, come abbiamo chiesto, una piccola tassazione dello 0,01%, risolviamo i problemi della Grecia, dell'Italia, della Spagna e di tanti altri. 2.000 miliardi di dollari al giorno transitano. Il primo di questi è il fenomeno della corruzione. La mafia passa attraverso tutta una, e l'andrangheta, tutta un'opera di corruzione a vari livelli. Non è soltanto quello politico. Sono tanti i livelli nella quale il fenomeno della corruzione passa. Oggi la Corte dei Conti ci dice che il costo della corruzione in Italia è stimabile circa in 60 miliardi di euro, è la finanziaria. Naturalmente i dati che vi dicono sono tutte stime, perché in questo campo non abbiamo il dato oggettivo. Sono anche complicate le stime che vengono fatte, non sono semplici, però sono abbastanza attendibili. Trattasi però di stime, è importante sottolinearlo. C'è stato un aumento rispetto al 2009 della corruzione di circa il 30%, cioè in un anno il fenomeno di corruzione è aumentato del 30%. Noi sappiamo benissimo che nell'opera di corruzione, però non vi invento niente perché basta leggere quotidianamente i giornali, il fenomeno dell'andrangheta e della mafia è molto molto connivente ed è quello che lo sviluppa. Il secondo dato importante, anche qui come stima il fatturato delle mafie, ce lo dice la Commissione parlamentare antimafia, che in una sua relazione ha comunicato che in Italia la stima circa di quella che è la fatturazione, quindi quasi fossero fatte delle fatture, ovvio che questo è un termine che indica il volume che transita attraverso le varie cosche mafiose di vario tipo, si attesta sui 150 miliardi di euro. Su questi 150 miliardi di euro, e questo è l'altro dato estremamente interessante, l'utile netto stimato per le cosche e per la mafia è di 70 miliardi al netto, quindi vuol dire che i costi che hanno, che sono di vario tipo, perché è ovvio che penso che tu sai meglio di me, non credo di non dire un'idiozia, anche chi mandano in giro ad ammazzare o comunque a fare il pizzo qualcosa gli vanno pur dare, no? Quindi qualcosa non può pagare, quindi al netto probabilmente di una serie di costi, la commissione parlamentare ci dice che hanno un utile netto di 70 miliardi di euro. Le mafie in Italia hanno poi appunto una serie di beni di loro proprietà consolidati, tema probabilmente che affronterà meglio il vicequestore. Comunque la stima anche dei beni in Italia delle mafie è circa di 1.000 miliardi di euro. Il debito pubblico italiano darebbe un grande respiro se questi 1.000 miliardi di euro, anziché vivere nell'illegalità, fossero invece legali. 1.000 miliardi di euro sono è il patrimonio, i beni consolidati della mafia. Il terzo elemento che è importante, e questo è un dato che ha girato di meno, che è quello del riciclaggio. Oggi non ho tempo per spiegarvi come fanno, però potete anche immaginarlo, forse avete anche letto. In Italia, nostro bel paese, si ricicla denaro sporco per il 3,7% rispetto al riciclaggio a livello mondiale. Quindi il 3,7% di quello che è il riciclaggio di denaro sporco passa in Italia. L'importo è circa annuo di 55.500 milioni di dollari che vengono lavati in Italia. E la cosa forse che non sapete è che l'Italia è la quarta lavanderia al mondo. Potete immaginare chi è la prima lavanderia, sono gli Stati Uniti. Non sono tanto, perché poi noi abbiamo le immagini, a volte anche queste errate che l'informazione dà. In genere il nostro immaginario va sulle isolette, certo ci sono anche le isolette che lavano denaro sporco, ma il grosso è fatto nei grossi paesi industrializzati. La quarta lavanderia a livello mondiale è l'Italia. L'altro elemento, l'ultimo, perdonate un po' anche la velocità, per la questione di tempo, l'altro elemento importante dove la mafia la fa da padrona è tutto il fenomeno dell'evasione fiscale, perché la mafia non paga il fisco. Il rapporto annuale della Guardia di Finanza stima che in Italia i cosiddetti redditi evasi, di cui buona parte, per le cifre che dicevo io, di competenza dei fenomeni mafiosi di 'ndrangheta, è circa di 270 miliardi di euro. 270 miliardi di euro all'anno di evasione fiscale. Vuol dire che se tutti pagassero, compresa la mafia, le tasse, non dovremmo avere grossi problemi. Non dovremmo avere grossi problemi. Tema sicuramente che straconoscete, dibattuto da decenni, da cui non si riesce, non c'è una volontà politica probabilmente di affrontarlo seriamente. E vi è di questa evasione, 270 miliardi, per quanto riguarda lo Stato, c'è un'entrata mancante di 120 miliardi di euro, di cui 60 sono per l'IVA. Qui vicino a voi, in Svizzera, campione d'Italia, qui vi è un paradiso fiscale. È citato poco rispetto agli altri, ma è proprio qui vicino. Non so quanto dista, ma comunque non credo che sia tanto da qua. Lì così, per ragioni che solo Dio sa, c'è un enclave dove sia i residenti, ma soprattutto le società di persone che lì hanno la registrazione, hanno una possibilità di evasione fiscale enorme. e probabilmente su questo tema credo che occorrerebbe, non è competenza certo di banca etica, ma tutti insieme cercare di affrontare. Ebbene, questo mix corruzione, fatturato di mafia, riciclaggio, evasione fiscale produce in Italia più di un terzo della ricchezza. Più di un terzo della ricchezza dell'Italia è fatta da queste cose qua. Vuol dire che un terzo del PIL è prodotto in Italia da queste quattro cose. Da questo si afferma in maniera brutale, ma non ci deve spaventare, in maniera brutale che in Italia un terzo della ricchezza è criminale ed è illegale. È forse forte come affermazione, però il dato e i numeri ci dicono queste cose. Ci sono delle ricadute, qui vado molto veloce, ve li accenno soltanto, che lo sapete benissimo anche voi, però almeno soltanto un paio di dati. Le ricadute di queste cose sono, per quanto riguarda la società, per quanto riguarda noi, aumentano le ineguaglianze, aumentano. Il 10% delle famiglie oggi in Italia controlla il 44,7% di tutta la ricchezza. Non è soltanto nei paesi impoveriti che questo fenomeno sta aumentando, anche qui. Il 50% delle famiglie invece possiede in Italia il 9,7% della ricchezza e quindi l'ineguaglianza si sta allargando. La seconda, che tema forse più del segretario che mio, comunque lo accenno soltanto come dato, perdita di posti di lavoro. La commissione parlamentare, sempre antimafia, stima una perdita di 180.000 posti di lavoro all'anno nel mezzogiorno a causa delle attività mafiose. Scrive, questo è interessante e ve lo leggo, la pressione, scrive la commissione antimafia, la pressione delle organizzazioni mafiose frena lo sviluppo di vaste aree del paese, comprime le prospettive di crescita dell'economia legale, alimentando una economia parallela illegale e determina assuefazione alla stessa illegalità. Vuol dire che uno si abitua ad essere illegale. Un ultimo punto che soltanto vi dico così come accenno, è ovvio che lo dicevo anche adesso, che aumenta tutto quello che è l'economia sommersa, aumenta quello che è il lavoro illegale. Pensate che in questo periodo di crisi, dove vengono accentuati questi fenomeni, l'economia sommersa è stimata con un aumento di 3 punti percentuali e nel 2010 ha raggiunto il 20% del PIL italiano. Il 20% del PIL italiano è fatto dall'economia sommersa, quindi la produzione e la ricchezza viene così. E veniamo all'ultimo aspetto che sicuramente è l'aspetto per me più sofferente e per me più difficile anche come dire, da affrontare, perché è il tema tipico del mondo bancario e di quello che Banca Etica tenta di fare per dare almeno una risposta su questo fronte, perché di fronte a questi numeri, davanti a questi numeri, uno la reazione è quella, è bella roba, ma pare che la tendenza non sia quella che va a diminuire, anzi. E allora noi dobbiamo fare probabilmente un'azione forte su noi stessi a livello sociale, di dire invece, come tanti di noi in mille modi hanno detto, invece si può, si deve potere, non ci si può fermare, non ci si può arrendere anche di fronte a questi numeri. E allora cosa facciamo? Primo, noi come tutte le banche esercitiamo il credito, facciamo credito. E il fare credito lo puoi fare in tante maniere diverse. Il credito lo puoi fare anche alla illegalità, lo puoi fare anche alle cosche mafiose, lo puoi fare anche a coloro che sono vicini e collusi. Il credito che noi facciamo cerca di mettere dei paletti molto alti. Si fa credito soltanto a quelli che noi pensiamo essere, dopo valutazioni che non sono soltanto quelle economiche, ma sono anche quelle di impatto sociale ed ambientale, una valutazione di tipo etico, la quale è quella che permette all'accedere al credito oppure non lo permette. Qui potrei raccontarvi tante di esperienze fatte. Qui vicino a noi, no, poca roba, più roba che abbiamo fatto al sud Italia, a partire dai finanziamenti fatti a cooperative che avevano il coraggio di prendere su di sé i terreni confiscati alla mafia. In particolare mi ricordo un giorno che atterrai a Lamezia Terme perché dovevamo fare un convegno di riflessione come Banca Etica. Lì mi presero dall'aeroporto, mi portarono in un posto lì nel centro di Lamezia Terme, entrai, mi portarono nella camera, mi fecero vedere, guarda, tu devi dormire lì, era tutto buio. Io andai ad alzare la tapparella, mi presero di colpo, mi fermarono, no, non alzare la tapparella, non puoi alzare, non posso alzare la tapparella. Ma guardi che qua, mi chiedevano del lei, guardi che se lei tira sulla tapparella non succede niente, però nella casa di fianco vi è il boss mafioso e il decapitato che ha sparato. Ho detto, beh, va bene. Vado nei bagni, ma non è leggenda, questa l'ho vista io. Non è leggenda, vado nei bagni e rubinetti d'oro, ma davvero, Marmi che non so dirvi perché, cioè, non so se anche a lei è capitato, comunque marmi che io non capisco niente di quelle cose lì, però probabilmente chissà che valore avevano, no? Questo per dire, no, dove si è arrivati. E lì il fare credito in quei territori lì evidentemente è una sfida, perché la finanza agisce prelevando al sud e portando al nord. Gli investimenti vengono fatti al nord, non al sud. L'inversione piccola, perché Banca Etica è uno sputo, ma l'inversione ideale è quella di dare invece il segno che se ci sono i soldi al nord bisogna poi avere la capacità anche di investirli al sud, con tutti i problemi connessi. Il riscatto dei beni confiscati, ecco, questa è la cosa più vicina. Stiamo procedendo con questo progetto a cui ci hanno invitato, che si chiama San Francesco, che è la confisca di un bene che si trova più vicino a Cermenate, per farci dentro un centro di studio intitolato ad Ambrosoli. E, a dir il vero, poi non so bene cosa sarà fatto. È stato inaugurato qualche mese fa, ci partecipiamo sia come fondazione sia come banca. Ci è stato richiesto appunto di aiutare questo processo. Il microcredito, altra frontiera. Il microcredito che è difficile da fare, ma soprattutto in certe terre, ma anche qui, aiuta alcune persone a non entrare nei gangli dei fenomeni mafiosi. La terza cosa, Banca Etica è stata la prima che ha detto no al segreto bancario in Italia. Le banche non comunicano come utilizzano i soldi, Banca Etica sì. Non è una cosa di poco conto questa. No al segreto bancario, perché dietro al segreto bancario si annida di tutto e di più. Le varie malefatte finanziarie che avvengono sia in Italia, soprattutto qui al nord Italia, e a livello internazionale, si nascondono dietro questa fantomatica ex legge, tra l'altro in Italia, del segreto bancario. Siccome io non posso dire certe cose, allora certo, dietro posso fare qualsiasi cosa. La dichiarazione di provenienza del denaro. Noi chiediamo un'autocertificazione se uno porta i soldi. Voi direte, sì, può raccontare palle, è vero. Però almeno il chiedere che i soldi che vengono depositati, dovrebbero farlo tutte le banche, non vengano da traffici illegali, probabilmente dovrebbe essere il minimo di un'azione bancaria legale, di un'azione bancaria corretta. E per ultimo, e termino per lasciare spazio agli altri, per ultimo, le ultime due cose importanti. La prima, Banca Etica è stata l'unica che ha rifiutato la legge Tremonti per il ritorno dei capitali all'estero. Ci hanno telefonato per dire se potevano portare i soldi, ve la ricordate, vero? Adesso stando veloce, ma credo che sono cose che conoscete. Tutte le altre banche hanno fatto la corsa per prendere questi capitali che sono rientrati. Banca Etica ha dichiarato pubblicamente che non li voleva. Due o tre ci hanno telefonato dicendo che volevano portare i soldi che arrivano da lì e gli abbiamo detto di no. Ma al di là dell'azione di per sé, dell'aver rifiutato, quello che è determinante è il dato politico, che è quello di dire no. Voi immaginate se il sistema bancario italiano, a fronte di una cosa come questa, avesse detto no, noi non accettiamo i capitali che rientrano. Tanto più che gli fai pagare una tassa, quant'era, 3% o 5%, non ricordo più. Questi sono i dati importanti. E l'ultimo invece è quello che riusciamo, per quello che riusciamo a fare noi, e lo facciamo con una società gestione di risparmio, che sono quelli che fanno i fondi comuni di investimento. Nella selezione che noi facciamo di queste aziende, che non sono sante, anche quelle che abbiamo noi, ovvio, però sono le migliori dal punto di vista etico-sociale, i parametri riferiti all'illegalità e alla mafia e alle collusioni con la mafia sono alte. Lì significa che questo processo permette di premiare le aziende più virtuose dal nostro punto di vista, vale a dire le aziende che non hanno, dopo l'analisi che facciamo, collusioni con i fenomeni mafiosi e di 'ndrangheta. Grazie. Grazie mille a Fabio Silva di Banca Etica. Ci ha detto molte cose e anche molto, ci ha dato delle cifre molto impressionanti. Faccio una considerazione brevissima prima di dare la parola al dottor Trabace. Fabio ci ha detto che il 3,7% del riciclaggio a livello mondiale passa attraverso il nostro paese, attraverso l'Italia. In Italia non esiste una legge che punisce l'autoriciclaggio, che è una cosa pazzesca. Cioè, se io ho due attività, una legale e una no, posso benissimo riciclare le attività, i proventi delle mie attività illegali nelle mie stesse attività legali. Questo non è nemmeno previsto dalla legge come reato, almeno in Italia. Passo subito la parola a Nunzio Trabace, per il rappresentante dell'Agenzia Nazionale per la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. Grazie. Sì, grazie a voi. Grazie a voi per aver invitato a questa occasione anche le due istituzioni che io rappresento, quindi la Polizia di Stato innanzitutto e poi l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati. Ecco, io avevo preparato una breve presentazione perché credo che l'approccio alla materia, al tema del contrasto alla criminalità organizzata, quello vero, quello profondo, scusatemi per l'espressione, quello da salotto, quello del telecomando, quello delle persone che la domenica alle 2:30 vengono qua ad ascoltare per cercare di capire e per cercare di approfondire questi temi. Sì. Dicevo, il contrasto alla criminalità organizzata si fa con un'azione concreta, con misure concrete, perché chi pensa di poter contrastare in qualche modo organizzazioni e strutture, che potrei raccontare tanti aneddoti, ma sarebbe un po', diciamo così, anche eccessivo. Ma chi pensa di poter contrastare questo tipo di organizzazioni, questo tipo di strutture con semplici ragionamenti o con semplici discorsi, sbagliate completamente indirizzo. Qui ci troviamo di fronte, ci troviamo in una vera e propria guerra. È una guerra vera dove la frontiera più avanzata, secondo me, è rappresentata dall'agenzia e dal contrasto ai patrimoni. Lo dico perché io ho iniziato in polizia nell'89, nel periodo dei sequestri di persona. Nessuno di noi pensava nell'89 che si potesse sconfiggere la piaga dei sequestri di persona. Quando ci si è mossi sulla strada del congelamento dei patrimoni, è brutto a dirsi, attenzione, io non sono molto, molto corretto, diciamo così, è brutto a dirsi, però in realtà è così. Quando ci si è mosso congelando i patrimoni delle famiglie dei sequestrati, sequestri di persone, anche per altre ragioni, ma voglio dire, probabilmente queste sono. Quindi, tornando al discorso, al tema nostro, al tema dell'aggressione ai patrimoni, noi rappresentiamo una frontiera e una trincea avanzata, parlo come agenzia, rispetto ad una strada ed un percorso che è iniziato nel 82. È iniziato quando una persona che un bel po' di anni prima aveva presentato una proposta di legge per la confisca, per le, diciamo, togliere i beni alle organizzazioni criminali, alla fine di giugno fu uccisa. Dopo qualche mese entrò in vigore la legge che ancora oggi porta il suo nome, qualcuno lo dimentica, ma è la legge rognoniatore. Ora, nel corso degli anni ci sono state diverse evoluzioni legislative, diversi passaggi. Fatto sta che io adesso avevo delle slide, ma non voglio deviarvi con numeri, dico soltanto che noi attualmente abbiamo in gestione 12.339 beni. La Lombardia è quarta, ma parliamo per il complesso dei beni, perché poi quando andiamo a vedere il numero delle aziende, la Lombardia balza in una posizione diversa. Dai dati presentati dal nostro ministero, perché qui c'è anche un problema di organizzazione adesso per quello che vi dirò dopo, per cui credo che i dati del Ministero dell'Interno su questo siano attendibilissimi, sono stati sequestrati negli ultimi anni, parliamo dell'ultima legislatura, 32.688 beni, di cui 1.860 aziende. Quindi quei dati che erano riferiti al 12.339 e sono fino, diciamo così, ad oggi, li dovremo moltiplicare quantomeno per 3 nei prossimi anni, perché voi sapete che rispetto all'aggressione di patrimoni c'è un primo step, che è quello del sequestro, che è una misura cautelare, poi c'è un altro step successivo che è la confisca, e poi la confisca può essere impugnata, si arriva in Cassazione e lì si dovrebbe fermare. Dico si dovrebbe perché purtroppo grazie ad una sentenza quantomeno discutibile del 2007 è possibile per i soggetti ai quali il bene è stato confiscato presentare dei motivi nuovi anche dopo la confisca definitiva, e questo ci crea una serie di problemi che comunque cerchiamo di affrontare e di superare. Questo per darvi il senso e la complessità dell'aggressione del patrimonio criminale. In questo scenario che è nato nel 1982, nel 2010, a fronte anche dell'ipertrofia di questo settore, il governo decide di adottare una serie di misure, tra queste misure la nascita, la creazione di un soggetto, di un'agenzia statale, di un'agenzia che è un ente pubblico sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno per la gestione dei patrimoni confiscati. Scusate se vi dico queste cose che possono sembrare un po' noiose, però se non parliamo, ripeto, di cose concrete, di situazioni concrete, non capiamo quello, di cui stiamo parlando probabilmente. Perché? Perché prima della nascita dell'agenzia la gestione dei beni confiscati, sequestrati e confiscati, aveva due momenti nettamente separati. Quello che arrivava fino alla confisca di primo grado ed era di competenza dell'autorità giudiziaria, e quella successiva alla confisca definitiva, che era di competenza del demanio barra prefetture per una serie di passaggi di competenza. La nascita dell'agenzia ha saldato letteralmente tutta la fase. L'agenzia inizia la sua attività nella fase del sequestro e arriva fino alla confisca definitiva, e quindi cerca di superare, o si sforza di superare, tutta una serie di criticità che nascono nella gestione dei beni. Quali sono queste criticità? Perché così capiamo. Innanzitutto il rapporto con i terzi in buona fede, in primo luogo le banche. C'era prima il rappresentante di Banca Etica che affrontava un problema, però diciamo, l'ha sfiorato, perché Banca Etica è più che un'eccezione, è di più di un'eccezione rispetto al mondo bancario, se vogliamo anche qui essere onesti. Il mondo bancario è un mondo che segue le regole del mercato. Le regole del mercato ci insegnano che i soldi non funzionano, no? Quindi, partendo da questo assunto, il primo problema è quello dei rapporti con le banche, sia per quanto riguarda gli immobili, ma soprattutto per quanto riguarda le aziende, perché un'azienda, fin tanto che viene gestita dall'organizzazione criminale, ha le linee di credito e ha un affidamento. Il giorno dopo il sequestro, il rating crolla subito, va all'ultima posizione e le linee di credito vengono chiuse e la banca chiede di far rientrare i capitali anticipati con l'esposizione. Questo giusto per capire, per capirci ancora una volta. Ecco qual è lo scenario nel quale noi operiamo. Operiamo in questo scenario in un momento in cui la confisca, il sequestro meglio, è una misura cautelare, cioè è provvisorio. Quindi bisogna da una parte cercare di salvaguardare l'azienda e soprattutto i lavoratori che operano in quell'azienda, perché questo è diciamo così, un altro tema importante che meriterebbe una trattazione a parte. Dall'altro bisogna essere pronti anche al fatto che l'autorità giudiziaria dica: no signori, questa società non è provento di attività illecite, ma è provento di attività lecite, quindi va restituita. Questo, diciamo, come criticità per le aziende. Per quanto riguarda i beni immobili, che è un altro settore, un altro capitolo molto importante, andrebbero fatte delle riflessioni ulteriori sui metodi e sui sistemi con cui viene concesso il credito ai proprietari degli immobili. La norma, la legge prevede il riconoscimento della buona fede per coloro i quali, diciamo così, abbiano un credito che noi dovremmo onorare, però non è che sia sempre così semplice arrivare a questa conclusione. Ecco, io ci sono diversi altri aspetti che vorrei e potrei approfondire, però siccome ritengo prioritario confrontarmi e approfittare di questa occasione per, diciamo così, interagire, vorrei fermarmi qua su questi aspetti, poi magari se ci sono degli ulteriori elementi. Grazie mille a Nunzio Trabace. Ricordo che la seconda parte di questo incontro sarà tutta vostra, nel senso che sarà dedicata alle vostre domande e ai vostri interventi, quindi è una raccomandazione che faccio a tutti e innanzitutto a noi relatori, rimanere nei tempi degli interventi è una cosa che consente, come è stato fatto giustamente finora, consentirà a più persone possibili di poter esprimere il proprio parere, poter fare i propri interventi. Lascio ora la parola a Marco Di Girolamo di Illea CGF. Grazie. Ma anch'io vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori dell'iniziativa per l'opportunità che mi è stata data. E prima di affrontare l'argomento, cioè quello del settore edile e della penetrazione in particolare dell'andrangheta nel settore edile in Lombardia e nelle relative province, anch'io vorrei non divagare ma fare una piccolissima premessa. Questa piccolissima premessa deriva non solo da alcune letture fatte sull'argomento, ma deriva anche da una indagine fatta sugli studenti di un noto liceo milanese, in cui il quesito non funziona, lo prende mai, in fretta. Allora, dicevo, la considerazione che adesso vi farò deriva da un'indagine fatta su studenti di un noto liceo scientifico milanese, dove l'oggetto, il quesito più rilevante, era relativo al concetto di rispetto delle regole. Non è un concetto astruso, ma il concetto di rispetto delle regole in relazione agli eventi malavitosi e all'infiltrazione mafiosa. Sarò rapidissimo. Da queste mini indagini, che poi è stata ripresa da uno dei più noti magistrati milanesi, Gerardo Colombo, che ha scritto due tomi del Consiglio, Feltrinelli editore, sul concetto di rispetto delle regole, cosa emerge? In modo direi violento, che la differenza tra parlato, dichiarato e comportamenti di concretezza è devastante, ai confini dell'impossibile. L'85% degli studenti di questo liceo scientifico, in buona sostanza semplifico, per ragioni di tempo, dice che il dichiarato è una cosa e il parlato è un'altra. Quindi un diffusissimo senso comune che non siamo conseguenti alle cose che diciamo. Questo è un fatto culturale assolutamente rilevante. E Gerardo Colombo, mi permetto, perché anch'io sono padre, ho un figlio diciottenne e anch'io qualche errorino l'ho fatto in vita mia, raccontando la sua esperienza di genitore, dice nel micro, ma rapportandolo al macro, quante volte ho fatto un elenco infinito a mio figlio sul concetto di rispetto delle regole e poi nella concretezza della quotidianità non sono stato conseguente. Di fronte a queste parole devo dirvi anch'io ho fatto un piccolo esamino di coscienza chiuso in una stanza e sono arrivato alla stessa conclusione di Gerardo Colombo, che spesso il senso comune diffuso anche tra le nuove generazioni è che le regole vanno rispettate nel dichiarato, ma chi le rispetta nella quotidianità, non fatemi dire brutti aggettivi in questa sede, è un puntini puntini. Questa è la conclusione dei due testi di Gerardo Colombo, conclusione che personalmente condivido. Questa premessa perché? Perché sempre nelle regole non scritte c'è un diffuso, e poi arrivo al mio argomento, senso di impunità. Nel nostro senso comune è diffuso nel popolo italiano la convinzione che viga una regola importante, che qualsiasi cosa si faccia, il codice penale, e mi rivolgo in particolare vicequestore, è un diffuso senso comune che il codice penale sia un ozio, qualsiasi cosa si faccia, qualsiasi comportamento non sia poi oggettivamente punito. Difatti più volte la comunità europea parla dell'Italia come di uno Stato che ha una legislazione dal punto di vista del testo rilevantissima avanzata, ma dal punto di vista sempre della relazione tra testo e comportamenti di concretezza, lontananza, anni luce. Queste due piccole premesse per dire che se nel senso comune è diffuso il senso di impunità, il senso di non rispetto delle regole, la lotta alla mafia, ha ragione il vicepistore, è un fatto di assoluta concretezza, incisività, poi dirò qualcosa rispetto al settore edile, ma se il senso comune non va in quella direzione, di certo non aiuta l'iniziativa quotidiana degli organi competenti. Non solo, la dottoressa Boccassini dice molto chiaramente, gli imprenditori del nord, riferendosi in particolare a quelle edili, ma non solo, sono più omertosi degli imprenditori del sud. Sono più omertosi degli imprenditori del sud. In tutta questa indagine citata all'inizio, potrei parlare di un fatto a voi vicino, Lecco Comasco, la Perio Costruzioni, ma poi ci arriverò rapidamente. In tutto questo, in tutta questa indagine, cosa emerge? Non emerge solo il fatto che l'andrangheta penetra nel tessuto produttivo lombardo, milanese, comasco, lecchese, varesotto, non vi faccio tutto l'elenco delle province milanesi. Non risulta solo questo. È una relazione biunivoca. L'andrangheta che cerca di penetrare e radicarsi nel territorio, ma gli imprenditori lombardi, in senso opposto, non è che stanno a guardare, aspettano che l'andrangheta arrivi. Ci sono, e anche nelle intercettazioni telefoniche materiale disponibile anche su internet, eventi in cui è l'imprenditore lombardo edile, cito il settore merceologico che conosco meglio, che contatta la 'ndrangheta perché intervenga. E d'altronde, in un contesto come quello odierno, crisi, arriva uno strangio, cito il cognome, il famoso, come dire, luogotenente della Perego Costruzioni, assunto dalla Perego Costruzioni, dipendente della Perego Costruzioni, emissario della 'ndrangheta, arriva uno strangio qualsiasi, ti dice: la tua azienda quanto vale? 10 lire, ti offro 4 volte il valore di mercato, me la vendi? Non voglio fare il moralista, mettetevi nei panni dell'imprenditore in crisi di liquidità, che riceve un'offerta per la propria azienda 4 volte superiore. Non voglio liquidare il problema dicendo che l'etica e la morale dovrebbero portare questo imprenditore a dire: rifiuto questa montagna di cash, perché sarebbe banale. Quindi il tasso di penetrazione della 'ndrangheta in Lombardia, lo dice anche la più recente relazione della Direzione Nazionale Antimafia, cito testualmente: la 'ndrangheta ha colonizzato la Lombardia. Non lo dice il solito, permettetemi la divacazione con un po' di ironia, comunista, lo dice la Direzione Nazionale Antimafia. Quindi il riferimento è molto preciso e approfondito, parla di monopolio. Nel settore edile la cosa è ancora più semplice, e cerco anch'io di stare nei 15-20 minuti. Perché è ancora più semplice? Due dati: l'evasione contributiva e fiscale stimata annualmente in questo settore sono 12 miliardi di euro. Una piccola finanziaria, 12 miliardi di euro su base annua. Quindi un settore nei panni della 'ndrangheta non solo da zoomare, ma da penetrare. Secondo, come voi sapete, la 'ndrangheta agisce direttamente e indirettamente, ovvero viene chiamata ormai da tutti i testi sacri. Purtroppo non ho trovato in libreria Mafia Padana. Non è fatto. No, me lo farò, visto che sono un braccino corto a regalare al relatore. Dicevo, lo dicono tutti i testi sacri, il tasso di penetrazione, in particolare nel settore edile, ha una doppia valenza. La prima riguarda l'evasione contributiva e fiscale. La seconda, siccome la penetrazione prevalente è, come si dice in generale, nel movimento terra, prima fase, quindi in un investimento cash in macchinari, non entro nel dettaglio tecnico. Due, potrei citare degli esempi a voi noti: Santa Giulia, l'alta velocità Milano-Novara, dove prima l'azione del movimento terra e poi lo scarico a ieri, ma oggi sconosciuto, a oggi conosciuto, di rifiuti di qualsiasi natura e di qualsiasi provenienza. Dal punto di vista del fatturato della 'ndrangheta, il vero business è lo scarico di rifiuti. Santa Giulia ne è un esempio emblematico. Quindi l'edilizia è stata analizzata, secondo me, non solo in riferimento alle imprese, e qui voglio fare un pochino l'eretico per dare un po' di pepe alla nostra discussione, nel senso che la 'ndrangheta è un'organizzazione militare. Quindi non ha solo come funzione prevalente quella di penetrare il mercato, acquisire cash le aziende, ma di controllare organicamente il territorio. Dico un'eresia: controllare anche gli operai, coloro che lavorano in quei luoghi. Vi faccio due esempi documentabili. Se andate a vedere i tabulati delle aziende che operavano sulla Milano-Novara, alta velocità. Io non sono un investigatore, mi sarebbe piaciuto farlo, magari se ci sarà una seconda vita ci proverò, però guardate questi tabulati, la provenienza di questi lavoratori, la residenza di questi lavoratori. Abbiamo interi paesini della Calabria, la devo citare, trasferiti d'amblè in imprese che operavano sulla Milano-Novara. Santa Giulia, idem come patate. E arriviamo al tanto citato Expo S.p.A. E qui c'ho anche un po', come posso dire, di rabbia, perché anche noi comunisti siamo protagonisti di questa vicenda da qualche mese, Expo S.p.A. Nel senso che gli azionisti di Expo S.p.A. sono, lo rammento a voi tutti, Regione Lombardia, Formigoni, Sindaco di Milano, che notoriamente non è del PDL, certo Pisapia, dico bene invece questora. Oltre che la società che fa capo alla Fondazione Fiera. E concludo con questo ragionamento su Expo S.p.A. perché, e questo dovrebbe essere un argomento ghiotto per i giornalisti, poi faccio dei distinguo ovviamente, perché io sono un tifoso di Pisapia, ma mi serviva per onestà di ragionamento. Allora, cosa succede? È stata aggiudicata la prima gara d'appalto il 9 di settembre dell'anno 2011, qualche giorno fa. Vi invito ad andare a dare un occhio a quello che è successo. Allora, innanzitutto questa gara d'appalto cosa riguarda? Riguarda la rimozione delle infrastrutture su quel milione di metri quadri che è Expo S.p.A. Viene chiamato in gergo tecnico ripulitura, per poi costruire la famosa piastra su cui sorgeranno i padiglioni. È una gara d'appalto da 96 milioni di euro, mi sentite bene? Quindi un fatto rilevantissimo. A difesa di Pisapia, la gara d'appalto era stata strutturata tecnicamente, faccio l'avvocato difensore di Pisapia, prima che Pisapia arrivasse. Questa è la scusante per Pisapia. Il 9 di settembre, mattina 9 settembre, vengono aperte le buste. Aziende partecipanti 25. È una gara al massimo ribasso? Non sto a entrare in dettagli tecnici. Chi si aggiudica il lavoro di ripulitura? La CMC di Ravenna, anche qui è ridondante, una cooperativa di comunisti, detto con un po' di ironia. Però mi telefona la sera stessa una giornalista del Corriere della Sera e io sono stato strenuo difensore della CMC e vi spiego perché e quali argomentazioni ho usato. La CMC si aggiudica questo lavoro di ripulitura con un ribasso del 43%, mi sentite bene? Quindi valore di quell'appalto 96 milioni di euro, si aggiudica quell'appalto con 42,8. Non guardiamo i decimali. Guardate i 25 classificati, la seconda classificata è distante di un punto percentuale. Insomma, le prime 15 vanno da un ribasso del 38% a un ribasso del 43%. Quindi dico a questa giornalista, che voleva anche lei, ormai è uno sport nazionale, sfrobugliare sui comunisti, gli dico, mi permettete di dire una parolaccia, una sola? Stai dicendo un'emerita cazzata, non c'entrano niente le azioni. Ciò che c'entra è chi ha stilato quella gara d'appalto al massimo ribasso. È il committente il problema, perché se il committente fa una gara al massimo ribasso, le aziende che partecipano, al di là della loro collocazione, a destra, a sinistra, al centro, a centro-sinistra, cosa devono fare? Partecipano alla gara d'appalto. È banale, non c'è alternativa. Un'azienda non può dire, siccome quella gara è stata fatta al massimo ribasso, non partecipo. È ovvio che un'azienda partecipa, ma le regole non le detta l'azienda, le regole le detta il committente. Quindi lì si annida il problema. Se Expo S.p.A. fa una gara al massimo ribasso e la giudica con una riduzione del 43%, la cosa, secondo me, è gravissima, non riferita alle aziende, ma riferita a Expo S.p.A. C'è un aggravante. Il prefetto Frattasi, vicequestore. Il prefetto Frattasi il 19 di aprile dell'anno 2011 pubblica, e ho finito veramente, l'ho fatto un po' lunga, sulla Gazzetta Ufficiale le linee guida Expo. Linee guida è un pippotto, non ve la faccio lunga, se avete voglia leggetemelo, fissano una serie di regole per quella parte. Expo S.p.A. cosa fa? Delle linee guida? Non fatemi dire parolacce. Ma il prefetto di Milano, che da quelle linee guida, come lei sa, è titolato come protagonista dell'evento, deve imporre Expo S.p.A., si chiama patto di legalità, come lei sa, uno standard fatto dal Ministero dell'Interno, bisogna solo compilarlo, con gli obblighi e un regime sanzionatorio nei confronti delle società e dei committenti che non lo rispettano. Il prefetto di Milano cosa fa? Non esiste il patto di legalità. Expo, che è il cantiere più sovraesposto sull'argomento andrangheta e penetrazione malavitosa. Con questo cosa voglio dire? Che sicuramente in Lombardia è un evento rilevantissimo, però sia il rispetto delle regole, sia il comportamento dei committenti, e non voglio fare di tutti i committenti indistintamente, cioè chi detta le regole incide sull'elemento malavitoso e sul suo proliferare, perché chi si aggiudica un appalto col 43% di ribasso ha un'unica possibilità: lavoro nero, non rispetto delle regole, non c'è alternativa, è un fatto oggettivo dal punto di vista economico, non può pagare la gente in regola uno che si aggiudica un ribasso al 43%. Per questa ragione diventa fondamentale, ho finito veramente, sia l'azione repressiva, sia l'azione sanzionatoria dal punto di vista penale, e purtroppo dal punto di vista dell'azione sanzionatoria, mi permetta, il nostro codice penale non prevede granché in queste situazioni, caporalato compreso. Io ho letto il testo, no, ho letto la novità, diciamo, berlusconiana, poi magari ne parliamo, non mi sembra molto efficace sull'argomento, perché non è previsto come reato, anche il caporalato, dal nostro codice penale. Quindi l'insieme di queste cose può produrre un'azione efficace. Non dobbiamo concentrarci, è fondamentale, solo sull'evento mafioso in sé. Grazie. Grazie Marco Di Girolamo di Filia CGL. Quando parlavi di omertà, mi è fatto venire in mente una cosa che mi ha detto Mario Portanova, uno dei più bravi giornalisti esperti del fenomeno mafia in Lombardia, in un'intervista che ho pubblicato per Antimafia 2000. Portanova mi diceva, quando si parla di omertà, esistono due tipi di omertà: c'è l'omertà dettata dalla paura e c'è l'omertà dettata dalla convenienza, e purtroppo molti imprenditori del nord oggi si stanno allineando su quel tipo di umiltà, perché abbiamo sempre più imprenditori che sono loro che vanno a cercare il contatto con il boss della mafia o il boss dell'andrangheta, per poi però finirne travolti e a volte, come è già capitato, con dei proiettili anche nelle gambe. Mi viene in mente una dichiarazione di un pubblico ministero della direzione istruttoria antimafia di Milano che dice: la borghesia industriale imprenditoriale del nord deve stare attenta a non fare la stessa fine dell'aristocrazia terriera del sud, che pensava di utilizzare le organizzazioni mafiose e poi invece ne sono state travolte. Passo subito la parola a Paolo Moretti, giornalista professionista della provincia e autore di Mafia Balcani. Grazie. Ora sì, perfetto. Ciao a tutti, grazie. Io racconterò magari qualche storia, così cerco di rispondere alla domanda, visto che sono forse il più locale dei relatori, se è dove la mafia come, vediamo se riusciamo a scovarla. Lo faccio raccontando le storie, partendo un po' da lontano, parto dalla Liguria, che è un'altra bella regione dove ormai non si può più parlare di infiltrazioni. Noi spesso ormai è un mio culpa, faccio a me stesso, parliamo di infiltrazioni mafiose, ormai qui si parla di vero e proprio radicamento del fenomeno mafioso nei nostri territori. Non c'è più un'infiltrazione, ormai qui c'è una presenza stabile e radicata da anni della criminalità organizzata. Allora, parlavo appunto di Liguria, Bordighera. Come saprete, come avrete letto, a Bordighera è stato sciolto il consiglio comunale per infiltrazione mafiosa. Una consigliera comunale di opposizione ha ricevuto delle lettere di minacce, tutta una serie di pensieri delicati da parte di personaggi mafiosi, o meglio legati all'andrangheta, perché si era opposta all'apertura di una sala slot a Bordighera, sala slot che neanche dirlo doveva essere aperta da una, dalla parente di una famiglia nota per gli agganci con la criminalità organizzata a Bordighera. E questa, questa consigliera comunale alle telecamere di Exit della 7, che avevano fatto una, un bel servizio su, su, su questo tema, aveva detto: non pensi mai che possa accadere, dici sempre che sono cose di laggiù, e invece è sbagliato, lo diceva mentre poco distante da lei c'era la radiomobile dei carabinieri chiamata a controllare che nessuno le facesse del male perché è stata messa sotto protezione. Già, non pensi mai che possa accadere. In realtà accade, queste, ormai da un anno a questa parte su, sul, sul mio quotidiano dedichiamo quasi quotidianamente un articolo dedicato ai temi della criminalità organizzata e della, della presenza del, del, della 'ndrangheta. Però è vero che probabilmente, nonostante tutto questo discuterne, parlarne, scriverne, probabilmente non c'è ancora la percezione di quello di cui stiamo parlando, non si capisce ancora esattamente di cosa stiamo discutendo, dov'è la criminalità organizzata, e ci sono tutta una serie di persone che pensano di scendere a patti, proprio come dicevamo, come diceva giustamente Massimo poco prima, con la criminalità organizzata, pensando di cogliere vantaggi e dimenticandosi, come ha detto per esempio il procuratore capo di Sanremo, che se vendi l'anima al diavolo, prima o poi il diavolo si presenta e ne chiede conto. E allora, a proposito di fenomeni, di persone che così, di inconsapevoli, io restando in Liguria cito questo episodio curioso. Poco prima delle elezioni in Liguria, sia regionali che legislative, nel negozio di Mimmo il verduraio a San Fruttuoso passano un deputato, due consiglieri regionali, un sindaco, un vice sindaco, un consigliere comunale, un paio di candidati alla regione Liguria, manco a porta mi verrebbe da dire, tutti da Mimmo il verduraio. A che uno si chiede: o Mimmo il verduraio è un profondo statista politico, o Mimmo il verduraio c'ha qualcosa da, anche perché questi non uscivano con la sportina della frutta e della verdura. Mimmo il verduraio altro non era che il capo della locale della 'ndrangheta di Genova, una locale che fa almeno 50 affiliati e che è stato arrestato in una delle tante operazioni antimafia che sono state che hanno tenuto banco l'anno scorso, soprattutto. Queste persone, intervistate dal tutte quante dal secolo XIX, mentre cercavo elementi per scrivere il libro, sono andato a leggermi un po' tutte le interviste, rispondevano tutte allo stesso modo: ah cavolo, non mica lo sapevo io che Mimmo il verduraio era un capo della 'ndrangheta, ma chi mai poteva saperlo? E che la domanda è: sì, ma tu da Mimmo il verduraio, tu deputato, tu consigliere regionale, tu aspirante sindaco, che diavolo ci fai da Mimmo il verduraio? Cosa sarai mai andato a chiedere a Mimmo il verduraio se non il voto di scambio? Inconsapevolezza per inconsapevolezza, perché queste risposte mi fanno venire in mente un'altra vicenda molto più vicina a noi, Erba. Ne abbiamo scritto questa settimana, perché così spulciando nella requisitoria della dottoressa Dolci, che è sostituto procuratore di Via di Milano, nell'udienza preliminare dell'operazione Infinito, abbiamo trovato diversi spunti interessanti su cui fare approfondimenti. Uno di questi riguarda un funzionario di una banca di Erba. Abbiamo scritto tutti i nomi sul giornale, non voglio farlo adesso perché non vorrei che ci si concentrasse sul nome specifico. Mi interessa raccontare le storie per tratteggiare un po' un percorso. Comunque sul giornale non l'abbiamo messo, cerchiamo almeno noi di non essere omertosi. Questo funzionario di banca non è in alcun modo indagato, qui forse anche perché ci sono delle lacune nel codice penale che impediscono di agire nei confronti di persone che scendono a patti con il diavolo. A un certo punto della sua carriera lui riceve la visita di Franco Crivaro. Ora, Franco Crivaro voi magari l'avete visto sui settimanali, mensili, tipo Chi, Oggi, Gente, via discorrendo, abbracciato alle more a Zuz Marzuk quando volevano fare sfondare il mondo della moda, delle serate a tema. Ecco, Franco Crivaro però, a parte essere abbracciato a Zuz Marzouk e a Lele Mora, che non gli ha portato bene perché sono tutti quanti, tutti e tre finiti in carcere, si trova in cella perché è accusato di usura, di detenzione, porto illegale di arma da sparo e ovviamente di associazione a delinquere di stampo mafioso. Franco Crivaro è un nome che conoscono tutti nella zona di Lecco Erba da 20 anni, probabilmente sì, meno 20 anni, l'operazione Wall Street della famiglia Coco Trovato, tanto per citare un episodio. Franco Crivaro va da questo funzionario di banca e il funzionario di banca diventa amico di Franco Crivaro. Domanda sentito a sommare informazioni testimoniali degli uomini dell'antimafia al funzionario di banca. Sì, ma lei sapeva chi era Franco Crivaro? Sì, no, io sapevo, ho raccolto delle informazioni negative sia dal punto di vista economico che dal punto di vista morale. Bene. Ma allora lei, scusi, perché si è messo in rapporti, amicizia con questo con Crivaro? Perché da un certo punto di vista mi metteva un po' soggezione questi personaggi, ma dall'altro mi dava una gran tranquillità, buon per lui. Tranquillità che fa anche un esempio il funzionario di banca protagonista di questa storia, funzionario di banca nato, cresciuto a Erba e non, come poi commenterà in modo amaro il PM Dolci, a Platì, ma a Erba. Racconta questo episodio: un giorno Crivaro viene a casa mia, io ho appena comprato casa, le la faccio vedere e dopodiché mi mette una mano sulla spalla e mi dice: stai tranquillo, a questa casa non succederà mai niente. Crivaro cosa chiede al funzionario di banca? Chiede per esempio un prestito di 10.000 euro per Pasquale Varca. Chi è Pasquale Varca? Pasquale Varca è il capo, stando alle accuse, della locale di Erba dell'Andrangheta. E come viene presentato Pasquale Varca al funzionario di banca? Perché magari non lo sapeva lui che era il capo dell'Andrangheta di Erba. Viene presentato, lo dice lui davanti all'antimafia, sì, mi è stato presentato come il capo della mafia di Erba. Anche uno dice: scusa, ma fammi capire, cioè, quindi ti è stato presentato così, ma è uno scherzo, cioè, avrei pensato questi burloni, chissà, non hai approfondito. Lui dice: mi è stato presentato come il capo della mafia di Erba. E cosa fa col capo della mafia di Erba? Gli presta 10.000 euro. E in cambio cosa chiede? E in cambio chiede che c'è una signora che non ha chiesto un credito e non tarda a pagare questo credito. E cosa fa il funzionario di banca nato a Erba, cresciuto a Erba, vissuto a Erba? Chiama Franco Crivaro e gli dice: siccome conosco le tue doti dialettiche, le doti dialettiche di Franco Crivaro, accusato d'usura, che gira con la pistola qui anziché la penna, conosco le sue doti dialettiche, gli ho chiesto se mi recuperava il credito. Non so, perché purtroppo non c'è traccia, che fosse questa signora, perché sarebbe stato interessante andare a chiedere quali sono state le doti dialettiche di Franco Crivaro. Rimanendo sempre per inconsapevoli e inconsapevolezze, una ragazza di Ponte Tresa nel 2008 ruba la carta d'identità al papà, incontra dei simpatici signori e dà la carta d'identità in cambio di alcuni grammi di cocaina. Questa carta d'identità salta fuori poco dopo, salta fuori in Svizzera, in un'inchiesta su un complicatissimo tentativo di riciclaggio di denaro sporco con due società aperte fittiziamente in Svizzera da parte dei soliti clan legati alla 'Ndrangheta. Perché cito questo episodio? Perché mi dà l'occasione di parlare del problema droga, del problema cocaina, che spesso e volentieri anche noi scriviamo, magari gli diamo poco spazio, ma è forse la madre di tutti i mali. La cocaina dà un introito, non solo dà un introito incalcolabile, probabilmente, se non a spanne, alle associazioni mafiose, ma dà anche un controllo sulle persone che ne fanno uso. E veniamo a Ivano Perego. Ivano Perego, lo scrive il magistrato nell'ordinanza di custodia cautelare, fa uso di cocaina. E il magistrato cosa scrive? Io non lo scrivo così tanto per dire, per fare un pettegolezzo, per fare un gossip, per dire parliamo male di Perego, dai, facciamo la serata che tira più cacca addosso a Ivano Perego. No, lo dico perché Ivano Perego, così facendo, si è messo nelle mani di queste persone, perché ha bisogno di soldi, perché è entrato in contatto con loro, perché perde il controllo con l'abuso di cocaina, perché è sempre sopra le righe. perché l'avvocato lo definisce come una sorta di fanfarone che insomma voleva fare il grande, non si è reso conto, ma non si è reso conto, e anche quindi inconsapevole, non si è reso conto fino a che punto. Se noi lo sentiamo al telefono dire ho i miei calabrotti, quelli lì si devono levare dalle balle da quel cantiere, non li voglio lì, perché sennò io mando i miei calabrotti. E quando c'era da cacciare Strangio dall'azienda a un certo punto, perché ha capito che ormai non ce n'era più e si era ormai cotti, e arriva un personaggio legato alla locale di Mariano Gomense della 'Ndrangheta, lui dice soddisfatto, fiero e felice, ne ho un altro, il cui cugino è stato ammazzato, come dire, cavolo, hai visto? C'è uno che questo qui il sangue conosce, sa che roba è. E veniamo appunto alla domanda: dove sta la mafia comune? Un po' l'abbiamo intuito, abbiamo citato Erba, abbiamo citato Ivano Perego, che è cantorino di nascita, che sta a Brianza, è a due passi, proprio sulla strada tra Erba e Lecco. Cito Mariano Comense. Mariano Comense c'è una locale di 'Ndrangheta, ma la cosa più interessante è che i carabinieri di Monza a un certo punto nel 2000, e sembra settembre 2008, dopo l'omicidio di Novella, che era il capo della Lombardia, cioè questa entità a capo delle locali di 'Ndrangheta della Lombardia, è stato ucciso, bisognava trovare il sostituto. Novella è stato ucciso perché voleva, si era autoproclamato capo e poi voleva fare una sorta di secessione alla Bossi dai clan dei calabresi. Ovviamente questa gli è stata fatta pagare con 5 colpi di pistola sparati in un bar in pieno giorno in provincia di Varese. A Mariano Comense c'è il capo della locale, che è ricoverato in ospedale perché è anziano, settantenne. I carabinieri si appostano perché c'è, a un certo punto, un giorno arrivano una serie di macchine con a bordo tutte persone che attualmente sono ospiti delle patrie galere, persone che si incontrano con il capo della locale lì in un reparto dell'ospedale di Mariano Comense per discutere delle strategie per sostituire il capo della Lombardia, non per quisquiglie, cioè per decidere come fare e come agire per riuscire a sostituire il capo della Lombardia. Torno a Erba velocemente, Crivaro, Varca, e a un certo punto Crivaro e Varca, tra le altre cose che fanno, tanto per capire anche i collegamenti e l'importanza di questi personaggi, aiutano due latitanti ricercati per omicidio volontario e per associazione mafiosa a scappare. L'idea era quella di, questi erano all'estero, in Nord Europa, ma siccome, viva Dio, ancora in Nord Europa, quando c'è un mandato di cattura internazionale, tendono a ricercare le persone, soprattutto se riescono a trovarne traccia, decidono di farlo venire qui in Italia, portarlo in Toscana e poi spedirlo su una nave, su una barca, verso il Nord Africa, i due latitanti. Il passaggio qui è essenziale. Allora cosa fa Crivaro? Chiama il cognato che fa il frontaliere, gli dice: guarda, c'è da portare là i documenti falsi, perché dobbiamo riportare i due latitanti. Questi prendono, vanno con i documenti falsi, ritornano in Italia, passano una serata a Gozzovigliare, al Coconut, non è dato sapere se con le more e Azzuz Marzut, ma questo lo chiederemo alla prossima puntata. E dopodiché gli cercano un posto per la notte. Tutta questa cosa qui non è una cosa che così per sentito dire, perché i carabinieri li stavano seguendo, sapevano benissimo quali erano i passi, infatti hanno arrestato i due latitanti prima che si imbarcassero. Sto praticamente chiudo, altri due episodi. Uno riguarda Bregnano, sempre per rispondere alla domanda. A Bregnano c'è un maneggio. Allora, in questo maneggio, alcuni mesi fa, hanno iniziato a scavare. A scavare perché Antonino Bennome, che è il capo di una locale della zona dell'Interland milanese, ha deciso di collaborare con la giustizia. E è una cosa rarissima, perché di pentiti collaboratori di giustizia della 'Ndrangheta sono veramente, si contano veramente sulla punta delle dita di una mano, anche con qualche problema di artrite. ha deciso di collaborare, ha cominciato a raccontare episodi, a raccontare nomi e a parlare di alcuni episodi di Lupara Bianca. Lupara Bianca è quando qualcuno all'improvviso scompare, si sa qual è la sorte, ma non si trova il corpo. Gli uomini dell'antimafia iniziano a scavare all'interno del capannone di Bregnano, di questo maneggio, e cosa trovano? Trovano alcune barattole di yogurt, un paio di pizzini, la spazzatura di un mese circa, e sotto tutte queste belle cose trovano il corpo di una persona che è stata uccisa lì all'interno del maneggio. E anche questo dovrebbe farci capire di che cosa stiamo parlando, cioè, stiamo parlando dei Goodfellas di New York, interpretati dagli attori di Hollywood, che anche un po' magari ci affascinano. Chiudo con una storia che volevamo inserire nel libro, poi non l'abbiamo fatto solo perché c'era stato chiesto che fosse anonima, e quindi noi nel libro abbiamo tendenzialmente messo tutti i nomi e cognomi, abbiamo evitato quindi storie anonime, ma è una storia che si svolge molto vicino a qui, in un'amministrazione comunale molto vicino a Villa Guardia. Me l'ha raccontata uno dei candidati di questa amministrazione comunale. Un giorno mi dice: guarda, ti devo raccontare questa cosa che mi è successa, che mi ha inquietato e che secondo me dà il polso della presenza e anche della strategia che la criminalità organizzata sta cercando di mettere in piedi nelle nostre zone. A un certo punto c'era da compilare la lista dei candidati in consiglio comunale. Arrivano delle persone molto importanti dal punto di vista provinciale, del suo movimento, che gli dicono: senti, inserirei questa persona qui nella tua lista. Il candidato lo guarda e dice: sì, ma questo qui ne parla tutti malissimo, è uno sfaccettato, è uno che non ha né arte né parte, si sospetta che sia anche un attaccabrighe, qualcuno magari l'ha visto anche girare armato, io non lo candido. Non è stato facile per questo candidato tenere fuori questo nome, persona, e qui veramente, credetemi, io non lo dico, come sono sicuro che non lo diceva prima il collega relatore, quando si dice calabrese, non è una questione razzista, non è una questione territoriale, è una questione che bisogna comprendere di cosa si sta parlando, cioè per quale motivo uno sfaccendato qualsiasi, in questo caso calabrese, quindi fa pensare male, perché la criminalità organizzata di cui stiamo parlando, che ha preso possesso e potere nelle nostre zone, è di lì. Ma per quale motivo uno sfaccendato qualunque, una persona che nessuno mai gli darebbe neanche le chiavi della sua macchina per spostarla perché ha paura che se ne vada via con quella, dovrebbe entrare in un consiglio comunale? Il sospetto è che ci sia questa tendenza a mettere uomini ovunque e a normalizzare la presenza di persone legate alla criminalità organizzata, occhi, orecchie, che siano all'interno delle amministrazioni e che possano parlare con chi tira poi le fila, come è successo a Bordighera, quando nella giunta che doveva decidere per questa famosa sala slot, due assessori dicono: noi non siamo d'accordo, le riunioni di giunta non sono aperte al pubblico, ci sta soltanto il sindaco, gli assessori, magari qualche tecnico comunale invitato per l'occasione per discutere. Bene, quella notizia, il nome di quei due assessori che hanno detto: ma no, a me la sala slot a Bordighera, ragazzi, ma cosa la proviamo a fare? No, non sono d'accordo. Dopo 3 ore il boss mafioso locale gli ha bussato alla porta e gli ha detto: ce l'hai con la mia famiglia forse? Usando probabilmente la parola famiglia non a caso. Grazie Paolo. Parlando della distanza che ci dovrebbe essere tra gli ambienti politici e gli ambienti criminali, viene in mente il fatto che molti politici dicono: sì, ma finché quando non c'è una sentenza della magistratura, comunque in Italia esiste la presunzione di innocenza, quindi la presunzione di innocenza, o meglio di non colpevolezza, vale per tutti. Quindi molti partiti dicono: fin quando questa persona è formalmente un incensurato, per noi, insomma, sostanzialmente non sono problemi nostri, ma sono problemi di cui eventualmente si deve occupare la magistratura. Abbiamo visto che il problema invece è esattamente l'opposto, fermo restando il fatto che comunque in Italia anche un pregiudicato, pluripregiudicato con sentenze definitive pluriconfermate dalla Cassazione può tranquillamente entrare nel Parlamento italiano, non esiste alcuna preclusione. 10 anni fa, nel 2001, uno dei primi lavori che io feci fu quello di fare il portalettere con un contratto trimestrale. Fra le tante cose che mi hanno chiesto c'era anche il certificato del casellario giudiziale. Cioè, se vuoi fare giustamente, lavorare anche a un livello relativamente basso, da termine per poco tempo nella pubblica amministrazione, giustamente devi dimostrare di non avere alcuna pendenza giudiziaria. Qualche mese dopo ho fatto un'altra esperienza, mi sono candidato alla Camera dei Deputati nel sistema maggioritario qui a Como. Mi hanno chiesto un sacco di documentazione, indovinate, l'unica cosa che non mi hanno chiesto era proprio il certificato penale. Quello inserisco nel curriculum, sì, quello, ma per potevo anche diventare Presidente del Consiglio, ma per fare questo, cioè, tipo Presidente del Consiglio, potrei dire comunque altra cosa, non è assolutamente una cosa. Grazie, questo è il vostro momento, so che sicuramente ci saranno domande, interventi da parte vostra. Ecco, vi chiedo una cortesia, siccome non abbiamo un, come si chiama in gergo, un gelato, cioè un microfono mobile, di parlare con un buon tono di voce oppure di venire. Se no non li vediamo. Sì, oppure di venire qui a avvicinarvi al banchetto che sarebbe anche meglio. Ok, chi ha la prima domanda? Prego. Prego, prego, venga pure. Di parlare. Va bene. Va bene. Allora, volevo spiegarmi alcuni interventi qua. Mariano Comense, quando ho saputo degli istituti in ospedale, questi signori, io ho anche un'associazione che ho chiamato l'ospedale di Mariano Comense, ci siamo subito allarmati e abbiamo scritto sia al medico dell'ospedale che al sindaco e all'amministrazione comunale chiedendo come mai è successa questa cosa, i cittadini sono tutelati, se noi sappiamo dopo che è successo questa cosa, chissà quante altre volte sono successe e noi siamo nostri. Non è che vogliamo conoscere tutto quello che sta facendo la magistratura o chi opera in segreto, però quando si scoprono queste cose ti viene un pochino di sospetto da persone o da come ti giri. Nessun tipo di informazione dall'azienda, dal medico, dall'azienda ospedaliera, assoluta tranquillità, tutto quello che è successo. Così che tu comunque puoi andare in ospedale a provare, tu ricoverato, un parente, un amico, la cosa diventa lì. L'amministrazione comunale, il sindaco in silenzio assoluto, l'assessore al commercio ha detto va bene, con tutto non è successo niente. Qual è il problema? Noi non possiamo controllare nessuno. Allora poi dalla stampa si viene a sapere che questi incontri, retroscena, scarica sotto l'ospedale di Sant'Anna, quindi ci preoccupiamo, dobbiamo essere tranquilli come cittadini, come committenti, frequentiamo l'ospedale, ci sono queste situazioni tossiche, non tossiche, va bene, cittadini su queste cose possono parlare, possono dare informazione alla stampa, siamo comunicati, però poi siamo messi in silenzio assoluto, perché ai nostri superiori dobbiamo stare tranquilli perché le indagini vanno avanti, stiamo tutti tranquilli, però io sono abito a Mariano Comense, sto collegandomi anche a quello che succede negli altri città. Mariano Comense, saranno 22 che non mi faccio, però quando un consigliere comunale, 40 anni che è consigliere comunale, e prende voti nell'eletto solo con determinati scambi, perché questo è noto, come si può chiedere una trasparenza? No? Tu mi chiedi, vota quella persona, ma la trasparenza di queste persone, fino a che punto può andare? Tu come fai a dirmi vota questa persona? Dopo 40 anni che sappiamo che sono persone che per il mio paese non ha fatto più assolutamente niente, niente, né una mozione, alzano sotto a malapena la mano e continuiamo a stare lì. Ma anche questi partiti, insomma, si chiede, di presentare che non sei collegato a nessuna appartenenza criminale, che ha capito tutti, eccetera, eccetera. Però vediamo con la mano, con la mano, questo non sei, perché tu sei un cittadino, di una cosa che stai con me, però si sa che ci sono cose che non vanno. E noi di fronte a tutte queste cose siamo impotenti. Cosa facciamo? Continuiamo a subire queste cose, sapendo che nel nostro paese ci sono gli scarti, ogni tanto trovano un cadavere, che ogni tanto nascono scuole, asili o ospedali con sotto cosa c'è queste fabbricati. Come siamo tutelati? E come dobbiamo comportarci? Ok, quindi come siamo tutelati, come possiamo comportarci, cosa possiamo fare per prevenire e per contrastare queste infiltrazioni nel nostro territorio, soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione, che poi è quella che va a coprire anche fatti gravi come quelli relativi all'ospedale di Mariano Comincen. Ok, possiamo riassumere così, corretto questo intervento. Ok, facciamo un giro di alcuni interventi e poi facciamo una risposta a tutti. Sì, prego. Intanto lasciatemi dire che trovo abbastanza straordinario che in una domenica pomeriggio, con un tempo così, ci sia a significare che c'è ancora speranza. Io credo che sia necessario dare anche un segnale da questo punto di vista. Io vorrei fare un ragionamento di 3 minuti, se mi è consentito. Allora, intanto, rendendoci tutti consapevoli che non si può parlare di infiltrazioni, nel senso che il fenomeno è presente nella provincia di Como, che a meno che noi ci troviamo di fronte a un fenomeno inspiegabile di autocombustione da qualche mese a questa parte, basterebbe questo per considerarlo un campanello di allarme, nel senso che noi abbiamo avuto negli ultimi 2 o 3 mesi decine e decine di incendi dolosi che, guarda caso, sono tutti i settori economici più esposti: l'edilizia, i trasporti, la logistica, i pubblici esercizi. Quindi è una storia per quanto riguarda il territorio comasco che è già in larga misura presente e che dovrebbe essere patrimonio di discussione. E mi serve questo ragionamento per collegarmi alla cosa che volevo dire, nel senso che non ricordo più chi tra i relatori parlava di clima necessario per far fronte a e tentare un contrasto efficace. Allora io inviterei tutti voi a provare a dare una lettura rapida a tutti i quotidiani, ad esempio, della giornata di oggi. Allora, anche per le cose che ci diceva il rappresentante della Banca Etica, mi verrebbe da dire che la priorità e l'emergenza, ma di gran lunga sopra tutte le altre nel nostro paese, sia la questione di cui stiamo discutendo oggi. Beh, io che oggi ho fatto la rassegna, approfittando anche di altri giornali che erano in giro allo stand, su questi temi non c'è una riga su nessuno dei quotidiani, a parte quello locale, perché la vicenda fa onore al quotidiano della provincia. E dico questa cosa perché io credo, a proposito di un piccolo ragionamento di natura politica, è che noi uno dei problemi grandi a discutere e a trattare della materia di oggi che noi abbiamo è quello che nel nostro paese, da qualche anno a questa parte, noi ci troviamo in una sorta di cortocircuito tra il concetto di legalità e il concetto di sicurezza. Nel senso che noi scontiamo, io credo, e sarà interessante tra qualche anno misurare il prezzo che noi abbiamo pagato per un'idea politica di questa natura, un'idea per cui tutti gli sforzi o gran parte degli sforzi orientati verso le forme di criminalità sono orientate sui temi della sicurezza e della microcriminalità, perché nel nostro paese non dimentichiamoci che il tema della sicurezza è diventata una delle fortune di alcuni raggruppamenti politici, e questo io credo abbia provocato come uno degli effetti collaterali anche quello, da una parte, di spostare gran parte delle risorse anche delle forze dell'ordine su questioni che magari, come dire, producono un consenso immediato, ma soprattutto ha distolto l'opinione pubblica da quello che dovrebbe essere la questione su cui ci si dovrebbe concentrare, che è appunto la questione di cui stiamo discutendo oggi. Cioè, si discute troppo di questioni legate alla microcriminalità. Adesso io faccio un esempio banale, quella che io considero una rissa tra ubriachi in via Tommaso Grossi alla ex Baden Powell ha inondato le prime pagine dei quotidiani per 15 giorni di fila. Le questioni invece degli incendi a cui facevo riferimento prima, che sono un chiarissimo segnale delle questioni che stiamo vivendo oggi, molto spesso vengono trattati nella cronaca locale con un trafiletto di quattro righe. Io credo che questo sia uno dei problemi che noi abbiamo e che nei fatti impedisce di far tornare il clima necessario che in qualche periodo nel nostro paese l'abbiamo avuto per tentare di contrastare davvero il fenomeno di cui stiamo discutendo oggi. Grazie, ci sono altre interventi? Ok, sì. Ma io sì, una volta inizio con una battuta. Io sono calabrese, quindi sono venuto a questa. Ma questa è solo una battuta. Calabrese è solo una battuta. Calabrese di dove? Calabrese del nord della Calabria, perché sono più. Sono calabrese padano, insomma. Calabrese del nord. Chiesto di dove per sapere quale Andrina. È una battuta, perché dietro la battuta ci sta una profonda amarezza. Diciamo che col sorriso sulle labbra, appunto, quello che esprimo, adesso poi faccio due considerazioni ovviamente nel merito, ma è per dire che insomma considerare che comunque, e questo io credo che sia giusto dirlo, ci sia un pezzo del nostro paese, intere regioni del nostro paese che sostanzialmente da quando esiste lo Stato italiano vivono una condizione, diciamo così, che conosciamo, che nel corso del tempo si è addirittura aggravata, il fossato tra una parte e l'altra del paese, e tra alcune regioni in particolare, e il resto del paese è addirittura cresciuto. Questo io credo che sia nel 150esimo dell'Unità d'Italia una delle più grosse questioni, probabilmente meno considerate al di là della retorica. E oggi paradossalmente, appunto, anche attraverso i dati che è molto importante che ci avete fornito, la crisi economica consente a regioni come la Calabria, paradossalmente, di poter intervenire grazie alle organizzazioni criminali per portare un ossigeno che sostanzialmente è, come dire, l'ossido di carbonio nell'economia di quelle parti del paese che per storia, per tradizione, come la Lombardia per esempio, la provincia di Como, piuttosto che la Liguria, diciamo, ovviamente le condizioni per poter ricevere questo tipo di investimenti. Quindi la prima domanda, insomma, la prima riflessione, appunto, anche se appunto sono decenni che esistono le organizzazioni criminali nel nord, in che misura l'accelerarsi della crisi economica ha accelerato anche queste infiltrazioni? Questo è un problema. Giustamente qualcuno prima l'ha sottolineato parlando delle banche. Certo, come ci insegnano appunto, pecuniano, no, non puzzano. E quindi in una logica economica, evidentemente, come giustamente qualcuno ha sottolineato, non sono solamente gli indranghettisti che vanno a cercare gli imprenditori, ma sono gli imprenditori che cercano laddove è difficile avere finanziamenti attraverso quelle che sono gli illegali. Quindi questo è un grosso problema che ovviamente, diciamo, pone alla politica, a chi governa, come giustamente diceva il vicequestore, il problema di affrontare quelle che sono le radici materiali della questione, perché se non si tagliano queste radici, io credo che tutto il resto non sia inutile, ma rischi di essere, diciamo, inefficace. E la seconda considerazione che voglio fare è questa, sulla politica. Cioè, io credo che oggi il problema della mafia, della criminalità organizzata, al di là di alcuni risultati sicuramente importanti che anche l'attuale governo può aver raggiunto, insomma io non metto in dubbio, però nell'agenda politica dei partiti io non credo che questa sia una priorità. Io, come dire, seguo, ho fatto politica per un bel po' di anni, seguo anche attualmente, insomma, e partecipo, questa non è, diciamo, una priorità nell'agenda delle forze politiche. Anzi, oggi, col fatto che le forze politiche e le organizzazioni politiche sono profondamente destrutturate, cioè non hanno, come dire, quella forza che potevano avere un tempo, le rende assolutamente permeabili ancora di più il tempo rispetto a quelle che sono organizzazioni criminali. Per esempio nella ricerca del consenso, veniva fatto l'esempio prima delle preferenze dei consiglieri comunali, ci sono cose che esistono da sempre, però io credo che oggi gli anticorpi siano minori di quelli di ieri. Perché in particolare, chiudo, nel passato, certamente nel nostro paese esistono processi storici, no, che hanno messo sul banco degli imputati politici, sono stati condannati, però esisteva, per esempio, anche nel sud, in particolare in Calabria, Napoli, in Sicilia, esisteva anche un movimento che aveva non aveva solamente, diciamo, una radice di tipo, diciamo, nella società civile, ma anche pezzi del mondo politico si battevano a viso aperto contro le organizzazioni criminali. Mi ha ricordato prima la legge Rognoni da Torre. La parola comunista non la deperiamo, però Pio La Torre era il segretario regionale del Partito Comunista della Sicilia. Quindi, come dire, esisteva un pezzo del sistema politico che si batteva a viso aperto, e c'è una lunga lista di morti che appartenevano per lo più, diciamo, a una certa parte politica, ma non tutti, esistevano anche, diciamo così, politici democristiani. Ecco, quindi oggi, a mio parere, questa è un'altra emergenza, nel senso che accanto alla battaglia culturale, accanto al problema che riguarda ovviamente la legalità come educazione dei cittadini, abbiamo questi problemi strutturali che, ripeto, dal mio punto di vista rendono la battaglia non impossibile, però molto complessa, molto difficile. Grazie davvero per questo intervento. Ti rispondo brevemente sul rapporto mafia-politica, perché è l'argomento del mio argomento, e poi passiamo, continuiamo con il giro degli interventi su cui sono più competente. È vero, e aggiungo, dal 1995 ad oggi sono state fatte una serie di leggi di riforme, anzi di controriforme in materia di giustizia, che hanno visto protagonisti dall'80 al 90% dell'arco parlamentare. Quindi bisognerebbe fare un conto solo su questi temi, senza grosse distinzioni, purtroppo. Sì. Arrivo subito. Rispondiamo un attimo, poi facciamo un altro giro, ok? Su cui andrebbe fatto un solo un incontro solo su questi temi. Comunque, è vero sostanzialmente quello che dici tu, che non c'è la giusta trasparenza e la giusta distanza, secondo me, del mondo istituzionale nei confronti di questi fenomeni. Qualcuno del relatore ha qualcosa da aggiungere prima di fare il secondo giro di interventi? Ok, allora. Volevo fare due domande, cioè, a parte ho sentito dei dati che mi hanno lasciato senza parola, cioè 3 ore per fare 100 km nel 2011. Ma lascia senza parole. Volevo sapere quali sono le due nazioni dopo gli Stati Uniti che sono prima di noi nel riciclaggio del denaro sporco, tanto per sapere come siamo messi. E un'altra cosa, come organizzazione mafiosa c'è, si intende dire organizzazione o è anche un'arte in cui l'italiano è maestro di arrangiarsi? Perché anch'io che mi metto assieme con 3 o 4 persone per vedere di spendere meno in una cosa o guadagnare qualche cosa, potremmo essere anche io un'organizzazione. Oppure c'è differenza tra l'arte di arrangiarsi e queste organizzazioni. Poi una cosa, si parla di organizzazioni mafiosa, ma io sento parlare di Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, cioè è una cosa unica o ci sono tante, con tanti modi diversi o che cosa? Anche nella provincia di Como, cosa abbiamo? Una determinata famiglia, una determinata regione, un determinato nome o non si sa cosa c'è? Qui la gente mangia e basta. Ecco, vorrei questi chiarimenti. Ok, grazie. Altre domande? Sì? Ma io volevo fare una considerazione, intanto partire dal fatto che io sono di Caserta, primo anno di insegnamento della mia professione anche a San Principe, con tanto di certificato come Massimo Brugnoli al casellario giudiziale, è stato un impatto molto, molto intenso, e volevo appunto, più che fare una domanda, segnalare che c'è un'emergenza nell'educazione e nelle scuole. Sono molto contenta che il segretario Marco, il segretario della Fillea, abbia parlato di questa indagine nel liceo scientifico milanese, perché mi sembra che ci sia un profondo senso di mafiosità diffusa, non un'organizzazione mafiosa, un'organizzazione criminale, ma un profondo senso di assuefazione a una mafiosità diffusa. Venendo a Como nel 1978, subito dopo il mio anno a Casal di Principe, io con un tipico pregiudizio giovanile pensavo di arrivare in una situazione in cui non avrei trovato le mafie. Forse proprio quell'anno di lavoro accanto ai figli dei camorristi mi ha aiutata a capire che invece ce li avevo sotto gli occhi anche qui nel 1978. E nelle scuole era difficilissimo parlarne, perché proprio perché questa associazione avviene lentamente, sembra quasi che avvenga come per le rane messe a bollire in una pentola fredda, il famoso esempio della pentola dell'acqua fredda, che fin quando l'acqua non arriva ai collezioni ci stanno dentro come se ci stessero bene, poi però l'acqua a un certo punto bolle e le rane muoiono lo stesso, ma fino a quel momento non hanno fatto nessun salto per uscire fuori, perché non si erano accorte di stare in una pentola di acqua che prima o poi avrebbe bollito. E quindi penso che la cosa importante, l'altra emergenza che noi abbiamo, è cercare di accompagnare le giovani generazioni a avere un comportamento, anche nei micro comportamenti, più attento alle, non solo alle regole, ma anche più attento a riconoscere comportamenti mafiosi anche in quella piccola arte di arrangiarsi. Mi sembra invece, ahimè, che molte generazioni vengano cresciuti nella competizione, non nella cooperazione, quindi nell'arte proprio di arrangiarsi da soli e individualmente, mentre da un problema, se non si esce tutti insieme, lo diceva Don Milani, non se ne esce. Grazie, quindi tu dici una mentalità, è una mentalità diffusamente mafiosa, a livello anche senza andare a toccare gli altri sistemi. Dico, bisogna contrastare anche quella, certo c'è il fenomeno grosso della criminalità organizzata, ma c'è anche quest'altra emergenza. Questa tendenza del singolo a cercare, diciamo, scorciatoie invece che cercare di uscire in maniera globale, complessiva, magari facendo un piccolo sforzo in più da certe situazioni. Ok, altri? Sì, allora, in alto, signore in alto, sì. Poi arrivo anche a te, sì. Sì, sì. Dai, lei. Non si sente niente. Non si sente però. O alzi la voce o se no puoi scendere. Okay, per la mafia, chi non è calabrese a Chiavano? Le mafie messe assieme. C'è un'offerta e una risposta. La mafia fa un'offerta e poi c'è la risposta. Al di là di tutte le crisi, di tutte, adesso non sta a me, è nella mia ignoranza, e non conosco proprio più in fondo le questioni di cui una persona agisce e va verso la fase di essere, l'illegalità, chiama la mafia per farsi aiutare. Cioè, al di là di tutto, io forse mi allaccio un po' all'intervento della persona, della signora prima, cioè non c'è appunto anche dentro di noi e in alcuni di noi, cioè questa è illegalità, cioè a tutti i costi, a volte vogliamo, cioè, si vuole troppo, il dio denaro è quello che la fa da padrone, per cui a volte al di là delle problematiche che un'azienda, che una persona affronta, c'è anche un volere troppo, e questo poi è una cosa a livello mondiale secondo me. Cioè, mio forse è una domanda psicologica, ma il fatto anche delle regole, è vero, si distruggono autobus, si distruggono pensilini, queste le cose piccole, poi dopo man mano si sale sempre più in alto, e più in alto si va è sempre più, come posso dire, è sempre più importante infrangere le regole. Cioè, secondo me anche, il problema è molto serio, è un problema anche molto psicologico, che è insito in alcune persone, forse nel piccolo anche in uno di noi, non lo so. Sì. Questa cosa mi fa riflettere un attimino. Ringrazio per il tuo intervento. È vero, forse è una domanda psicologica, ma molto concreta, perché alla fine i comportamenti, le persone sono spinte nei propri comportamenti, dai propri valori, dai valori che hanno. E quindi se non partiamo da un'analisi di ciò che spinge le persone ad agire, anche in un contesto del genere, rischiamo di lasciare un pezzo importante. Quindi secondo me è molto giusto anche il tuo intervento. Ok, tu... Poi ci sono altri perché abbiamo poco tempo che dobbiamo fare un giro di risposte. Prima okay. cosa, io non sono stupito della partecipazione a questi contesti, perché secondo me, poi vedendo anche facce giovani, se date la possibilità di partecipare in queste situazioni ci siamo. Il problema per me più grosso sono quelli che sono a casa a guardare la televisione in questo momento. La riflessione che mi veniva in mente è... sono andato prima dell'estate a un contesto del genere con il consigliere regionale Cavalli a Cantù. Io pensavo che, abito vicino a Cantù, pensavo che quando si vedevano costruire tante case non si vendono, tanti capannoni non si vendono, tanti supermercati in una stessa situazione, pensavo esclusivamente a, siccome siamo un po' in crisi, il mattone ha sempre dato la certezza, cazzo, sono talmente stupidi che continuano a investire lì e sono tutti bloccati. Cavalli apre la finestra dicendo: guardate che laddove vediamo crescere supermercati in quantità così elevati, lì c'è infiltrazione mafiosa. Cioè, questo ti apre la finestra, ma quello che mi stupisce di più è che sulla provincia sul giornale della provincia, uno della giunta di Cantù dice: sì, ci sono tanti supermercati, però a noi si entrano 500.000 euro di oneri di urbanizzazione e 50-60 posti di lavoro. A me preoccupa questo, che se in un ambiente politico non so se non c'è la consapevolezza o se si mette sulla bilancia, vabbè, anche se è illegale io accetto lo stesso. Cioè, se la politica... è vero che non dà un buon esempio, ma se neanche, cioè, nel nostro territorio non riusciamo a fare un discorso di tutela e di tutto il resto, per me è preoccupante. Grazie, abbiamo tempo ancora massimo per un paio di interventi, perché poi dobbiamo chiudere il primo ciclo di risposte. Ok, nessuno? Sì, allora, signora... Ok, prego. Io partivo da... il dato che comunque penso che ormai sia chiaro a tutti, perché forse la 'Ndrangheta è una delle più grandi multinazionali, se non mondiali, però quantomeno italiane sicuramente. E alcune cose che sono state dette entrano proprio nel concreto, su come andare a rompere, diciamo, un dato che è appunto che un'azienda, una macro azienda che comunque è inserita in un sistema. Nella finanziaria, ma appunto se ne è discusso anche in altre situazioni, per esempio la tracciabilità delle transazioni, che adesso è stata ridotta da 3.000 a 2.500 euro, se non mi ricordo male, ma che veniva proposto anche soprattutto dall'opposizione di ridurla ancora. Questa cosa può dare un aiuto anche a eliminare o diminuire il problema del riciclaggio, oppure, e quindi avere una tracciabilità anche delle piccole transazioni. E il SISTRI, che probabilmente non so quanti sanno cosa sia, ma comunque che è ora un sistema integrato per la verifica dei trasporti rifiuti, quindi nocivi, che doveva partire, poi dopo si è bloccato, adesso forse viene reinserito, può dare anche questo una mano a appunto monitorare, diciamo, lo spostamento dei rifiuti, soprattutto chimici piuttosto che nocivi, e quindi dare un'idea, diciamo, di quanto si sposta, e quindi bloccare la possibilità, appunto, di trovarci dei rifiuti tossici magari sotto l'ospedale. L'ultima domanda è una domanda che secondo me non ha risposta, è più una riflessione. Noi siamo integrati in un sistema ormai globale, che è un sistema, perdonate il termine un po' vetusto, però capitalista. Ma siamo veramente sicuri che la politica riesca a dare delle regole al capitalismo, che quindi mercato e che è, ed è quindi anarchia? Cioè, perché il capitale è anarchia, il capitale non ha bisogno di regole, ma il capitale si organizza da solo. Quello che un po' diceva il Marco, quando diceva che sono le aziende, gli imprenditori che cercano il mafioso di turno o l'andrangheta per abbattere i costi, oppure per essere messi nella condizione di andare avanti. Io su questo ho, purtroppo sono diventata cinica per il lavoro che faccio, ho un po' di dubbi che si riesca a fare, se non invece cambiando un sistema che è quello capitale, del capitale. Però mi piacerebbe ogni tanto trovare ancora la forza di sognare qualcos'altro, un po' più avanti. Grazie mille, continuiamo a sognare, mi raccomando. Ultimo intervento alla signora e poi facciamo un giro di risposte. Scusate, uso il microfono perché personalmente purtroppo molti degli interventi non li ho capiti, proprio un po' perché i bambini di là stanno giocando, eccetera. Quindi niente, volevo ricollegarmi anch'io al penultimo intervento e cercare di avere anch'io qualche utopia, nello sperare che si possa, a partire da un aspetto culturale quotidiano di ognuno di noi, scardinare alcune questioni che stanno venendo avanti. Mi fermo ai nostri paesi qua intorno, perché tutti noi stiamo assistendo alla deturpazione del territorio che sta avvenendo, con le scuse che avanzano gli amministratori comunali dicendo non abbiamo più soldi, quindi ci servono gli oneri, quindi qualcuno ha già fatto questo intervento. Nel frattempo c'è un abuso e un consumo del territorio assolutamente incontrollato, ingestibile. Personalmente mi chiedo chi sta tentando di fare questi investimenti nei supermercati, nei mega centri commerciali, con questi obiettivi, no? Di dire diamo lavoro, e sappiamo tutti qui c'è parecchio mondo sindacale presente, vorrei che ci sia davvero sul nostro territorio dei documenti, delle analisi su che cosa significhi dare lavoro in questo bailame di centri commerciali. Nel mio comune ne stanno per essere insediati quattro nuovi centri commerciali. Mi chiedo veramente quali sono questi investitori, qualcuno abbiamo alcuni dati, perché vogliono investire in questo modo, perché è necessario consumare il territorio. E a questo punto mi chiedo, noi cittadini dobbiamo dire la nostra, anche perché la cultura, qualcuno diceva dove sono tante altre persone, il problema è che ci stanno dicendo che dobbiamo passare le domeniche nei supermercati, non dobbiamo stare a casa a pensare o andare da altre parti a ragionare con le nostre teste, dobbiamo passare il nostro tempo libero ad acquistare, consumare e stare nei supermercati. Questa cosa è un aspetto culturale sul quale dobbiamo riflettere, soprattutto con i giovani, e non far passare questa tendenza, capire cosa sta venendo avanti nei nostri territori. Il dire che con i grossi centri commerciali si crea lavoro, lavoro precario, lavoro che andrà a probabilmente dopo qualche anno essere chiuso, perché abbiamo visto, no? Cioè, l'esperienza ci sta insegnando anche da altre parti, e non si parla più di manifatturiero, quindi anche riflettere sul concetto di un nuovo lavoro credo sia importante. Vi ringrazio. Allora, questo era l'ultimo intervento, adesso abbiamo però l'ultimissimo, che è proprio l'ultimissimo, anche perché mi ha detto che sarà breve. Sì, sono stato stimolato proprio dagli ultimi due o tre interventi. Sono reduce dal Festival Internazionale della Filosofia di Modena. Una cosa straordinaria, l'uomo e l'ambiente. E allora l'uomo in un ambiente degradato produce un uomo degradato, ecco il dato culturale, eccetera. E si è parlato proprio di questa questione, del degrado dell'edilizia, dei supermercati, eccetera. Orbene, il punto è questo, e lo rivolgo agli amici e ai compagni che sono impegnati nella politica, nel sindacato, nella negoziazione. Questa cosa degli oneri di urbanizzazione e dell'ICI, che sono gli unici canali di finanziamento dei comuni, e quindi le politiche sociali che passano attraverso queste cose, si può continuare a tacere su queste questioni, e cioè sugli oneri di urbanizzazione, sul ICI, eccetera, di finanziamenti ai comuni, canali di finanziamento ai comuni che producono poi queste cose, la distruzione di territorio, l'intervento mafioso in queste politiche e quindi tutto ciò che comprende questa cosa. So che è una domanda che faccio a me stesso oltre che a tutti, però mi pareva importante sottolineare questo aspetto. Vi ringrazio. Grazie, abbiamo molta carne a fuoco, vedremo di riuscire a essere più esaustivi possibili nelle risposte. Fabio, volevi cominciare tu? Ma ci picchia. Tre minuti però, breve, no? Per rispetto. Vado per punti velocemente. L'amarezza del signore Calabrese. Mentre dicevi queste cose, a me venivano in mente invece tante persone, tanti nomi che in Calabria lottano per la giustizia. Non c'è solo la 'ndrangheta lì così. Io ho visto delle persone, donne e uomini, e ho collaborato con loro, e che quando tornavo a casa io dicevo, eh sì, io vado in giro a parlare di queste robe qui, quelli là sono là, e là rischiano, e quindi forse è vero, non se ne parla mai, ma fatti tra mafiosi ce ne sono poi 10 che lo combattono, non è che là è tutta mafia, è tutta 'ndrangheta, e quindi bisogna essere fieri di essere di quel posto lì, come in tutto il mondo. E credo che questa sia una cosa importante, perché è un dato culturale. La seconda, andiamo ai nodi dolenti della richiesta, è una cosa che volevo evitare, però ve lo dico, Stati Uniti è il primo per quanto riguarda il riciclaggio, Isole Cayman è il secondo che è l'isoletta, Russia terza, Italia quarta, Cina quinta, Romania sesta, settimo Canada e l'ottavo, che non volevo dirvi, Città del Vaticano. Non volevo dirlo come cattolico, perché sono cattolico, però sono un cattolico comunista, come mi hanno sempre chiamato, no? Quindi quelli più tosti. Ma non mi fa problema questa cosa, nel senso che lo so, io ho anche studiato. E quindi il tema è un altro, il tema è che non occorre scandalizzarsi, bisogna rimboccarsi le maniche e modificare per quello che riusciamo a fare. Quindi se vuoi ti dico qua i primi 20, se vuoi vado avanti, ma comunque in Lussemburgo, la Francia, ci sono la Germania, ci sono tutti i paesi industrializzati dentro qua, perché è chiaro che dove sono i soldi che girano i soldi. Il termine, tra l'altro, lavaggio del denaro, l'ha inventato Al Capone, non è che l'ha inventato qualcun altro, perché siccome lui nelle sue varie attività doveva nascondere il suo contrabbando di alcolici negli anni 30, e lui gli introiti li faceva transitare attraverso una catena di lavanderie, e da lì che è nato il termine lavanderia, è lì che è nato il discorso del lavaggio del denaro sporco, quindi è strettamente collegato, no, con la cosa. E sono queste le nazioni, la tracciabilità. È vero, è stato ridotto, le banche lo fanno per la maggior parte, qualcuna no, trattasi di piccoli importi, questi che sono importanti, ma la questione è un'altra, tema che per questione di tempo oggi non potevo affrontare, ma le transazioni di tipo finanziario passano attraverso quei paesi che il GAFI, che è l'organismo dell'ONU che si interessa di criminalità finanziaria, ha messo all'indice, sono i cosiddetti paradisi fiscali, che non significa solo evasione del fisco, ma sono paesi nei quali le legislazioni permettono qualsiasi cosa. Permettono la creazione di una società nell'arco di 2 minuti e cancellarla il giorno dopo, e nel frattempo tu fai transitare. Dopodiché, siccome il giorno dopo sparisce, hai voglia di poter andare a rintracciare, a rincorrere. Siamo al 10° anniversario della strage delle Torri Gemelle. Uno studio che abbiamo fatto, e che forse, non so se qualcuno, anche in pubblico ne ho parlato a volte, su quello che è stato il risvolto di tipo finanziario per quanto riguarda questo tipo di attentato, in quello studio che era stato fatto, dove era evidente e abbiamo visto come la speculazione nei giorni precedenti, nei giorni dopo, ha agito pesantemente sui titoli dell'American Airlines, della United Airlines, così come ha agito sui titoli dell'AXA, che sono compagnie di riassicurazione. Questa speculazione non è stata fatta laddove noi dopo siamo riusciti a rintracciare, no, l'ha fatta nei paradisi fiscali, e lì è nero, muro, non riesce a trovare più nessuno. Sappiamo i volumi, conosciamo cosa è avvenuto, non riusciamo assolutamente a risalire a chi sta dietro queste cose qua. E questa la dice tutta, no? Su come sono i meccanismi di quello che sono la rintracciabilità del denaro dal punto di vista finanziario e delle transazioni. Termino dicendo, secondo me, la speranza muore quando non si sa più cosa fare. Noi però possiamo fare, primo, una grande consapevolezza, stiamo facendola qui, e non è una parola detta così per dire, occorre che questa consapevolezza venga sempre più diffusa, come diceva lui. Come si fa? Si fa parlandone, si fa studiando, si fa diffondendo quel materiale, quelle riviste, quei libri. Per esempio, faccio pubblicità a questo testo locale che io non conosco, ma che comunque è importante diffondere queste cose qui e sostenerle. No, 15 euro 15 su 30, io però ci sono diffondere, come diffondere, e adesso faccio pubblicità per me, io sono presidente di Valori, che è un giornale finanziario economico, e che noi facciamo queste inchieste e andiamo a guardare. Ovvio che, per esempio, io che sono presidente di questa roba e ogni anno devo andare in giro a cercare i 30.000 e 50.000 euro per tenerlo in piedi, se no dobbiamo chiuderlo, è evidente che se viene a mancare questa parola, la consapevolezza diventa più complicata. La seconda cosa invece è la denuncia, possiamo farla a tutti i livelli, Se non si riesce a far denuncia, o se non si fa denuncia, si è complici. La terza cosa che possiamo fare, stiamo facendo, è quella che bisogna dar vita ad una economia non mafiosa, ma invece a un'economia a servizio della persona. 20 anni fa una manifestazione come questa ce l'ascoltavamo, eravamo 4 gatti a ragionare su finanza etica e commercio equo. Se nel percorso, in questi decenni, si è sviluppato così, vuol dire che questa economia, tra virgolette, chiamiamola come vogliamo, diversa, etica, può fare strada. Noi abbiamo il compito di portarla avanti, questa è la grande speranza, e sono cose concrete che possiamo fare. Grazie Fabio, il Vaticano lava più bianco, potremmo dire, potrebbe essere lo sponsor per lo slogan per il prossimo campagna 8 per 1000, non solo loro, però, giustamente. Dottor Travace? Sì, no, io volevo chiudere, perché ho ascoltato tutti quanti con grande attenzione, perché queste, io ci ho ringraziato Alessandro per avermi coinvolto in questa iniziativa, perché credo che chi lavori, chi operi, soprattutto in settori così delicati, debba confrontarsi, debba ascoltare quali sono tutti i punti di vista dei soggetti coinvolti, altrimenti si rischia poi di diventare autoreferenziali, di darsi patenti. Questo non va mai bene, insomma. Io credo da questo incontro, da quello che è stato detto e anche soprattutto da quello che non è stato detto, mi convinco ancora di più di quello che io ho pensato in 8 anni di vita a Como. Io adesso vivo a Reggio, servo ancora un punto di riferimento a Como, per cui spesso lo faccio avanti e dietro, penso di poter sintetizzare anche punti di vista diversi. E dico che Como è in larga parte del nord, per quella che conosco, nonostante i problemi. Paolo prima citava la Liguria ci stanno arrivando dalla Liguria diverse situazioni critiche, anche dal Piemonte, dall'Emilia Romagna, da Rimini, dalla costiera, stanno arrivando dei segnali di investimenti di capitale di provenienza illecita veramente significativi, però avvengono in un tessuto sociale sano, cioè questo io faccio fatica poi a volte anche a parlarne, perché non sempre si riesce a capire, perché chi vive in un tessuto sociale come questo vede giustamente certe situazioni, certi problemi in una maniera diversa. E io vi assicuro che il messaggio che io ho ricevuto oggi da questo incontro è quello di una realtà che ha un tessuto sociale sano, nel quale sì, non ci sono più infiltrazioni, ma c'è una presenza. E io qui voglio dire in maniera chiara, qualcuno può aver anche cercato di fare lo struzzo, ma io ricordo 2007, il questore Mazza, festa della polizia, in maniera chiara disse nel suo intervento che c'erano delle presenze forti della criminalità organizzata nel nord Italia e anche in provincia di Como. Quindi nessuno ha più intenzione, o pensa anche nelle istituzioni, che certe, rispetto a certe cose si possa mettere la polvere sotto il tappeto, non lo pensa più nessuno. Tanto per essere, tanto per continuare su questo filone, secondo me siamo a un buon punto, e vi dico perché. Perché io riflettevo su un testo che per me è importantissimo, che è il testo di Saverio Lodato sui vent'anni di mafia, che ha fatto altri giorni, e riflettevo sul fatto che il primo pentito di mafia, tale Leonardo Vitale, andò nel 1973 da una stazione dei carabinieri, andò a parlare di mafia, lo ricoverarono in un ospedale psichiatrico giudiziario, morì nel 1980 ucciso. Fino all'inizio degli anni 80 i quotidiani più importanti della Sicilia e anche della Calabria continuavano a dire che la mafia non esisteva. Il primo maxi processo è del 1987 alla mafia. Ora, io oggi sento spesso, perché sento spesso il procuratore di Reggio Calabria Pignatone, il quale manifesta lo sforzo, l'impegno e la volontà di costruire una visione e un contrasto organico all'andrangheta intesa complessivamente, perché è stato fatto prima con la mafia, poi è stato fatto con la camorra, con Salvi Principe, con i casalesi, eccetera. Ecco, costruire in maniera organica un'azione di contrasto, un iter giudiziario di contrasto forte nei confronti dell'andrangheta, così come è stato fatto nei confronti della mafia. Quindi quella fase, che era la fase della coscienza del problema, noi l'abbiamo, voglio dire, se non superata, però quantomeno non ci siamo scomposti rispetto a questo. Cioè, c'è un problema, il problema c'è. Che siamo conoscenti, siamo capaci anche di distinguere tra gli investimenti mafiosi, che è una cosa diversa rispetto alla presenza di criminalità organizzata in un contesto, e ci cerchiamo di trovare delle risposte. Ecco, le risposte, questa è la parte che più mi interessa, perché poi ciascuno qui deve fare la sua parte. Io vado ogni giorno, ogni settimana, parlo con sindaci, con amministratori, con associazioni, con Libera, non vi dico quante volte al giorno sento Libera. E vi assicuro che ci deve essere uno sforzo di tutti. Cioè, chi pensa che arrivare al punto, comunque, che questa questione sia una questione che riguarda gli altri, ha sbagliato. Questa è una questione che riguarda tutti quanti noi. Innanzitutto, e qui mi rivolgo l'orientamento generale, devono cadere dei tabù. I patrimoni confiscati devono essere venduti. Guardate, non si esce da qui. Chi pensa che si possa gestire patrimonio confiscato con la letteratura, con la teoria, con che le associazioni possano andare dentro le strutture che sono da ristrutturare, che sono ipotecate, che sono, cioè, tutto questo, chi pensa che tutto questo avvenga con la poesia non ha capito niente. I patrimoni confiscati devono produrre utilità. Devono produrre utilità o in termini sociali diretti quando è possibile, o mettendoli a reddito e destinando i ricavi per finalità sociali, cosa che la legge 50 ha introdotto, oppure devono essere venduti. La paura che tutti abbiamo, ma poi vengono ricomprati, è soltanto una foglia di fico, perché quando dovessero essere ricomprati, entrare nella disponibilità, vengono risequestrati. Quindi non nessuno può pensare che questa azione sia un'azione che abbia un inizio e una fine e tutti vissero felici e contenti, perché qua felici e contenti non vivrà nessuno. Qua c'è una battaglia da condurre ogni giorno all'interno di una guerra più grande, nella quale noi siamo un pezzettino piccolo. Quindi è inutile, io sento spesso convegni, incontri, prese di posizioni in cui poi si fanno ragionamenti e si finisce col fare della teoria. Bisogna essere concreti. E a proposito di concretezza, io ricordo a tutti che la legge istitutiva dell'agenzia, così come tutto il pacchetto antimafia, è stato votato dal Parlamento in seduta all'unanimità. All'unanimità, è stato uno dei pochi provvedimenti votato all'unanimità. Quindi questa unanimità non deve essere soltanto una unanimità di intento, si deve tradurre in una unanimità concreta, di determinazione, perché di fronte ci sono dei nemici molto determinati, che certo non fanno né poesia né letteratura, che non si preoccupano se devono far fuori una persona. Si preoccupano solo di andare a chiedere l'autorizzazione che non crei ulteriori problemi. Ecco, rispetto a questo io credo che bisogna fare uno sforzo e anche andare oltre quelli che sono le proprie, perché mi rendo conto che alcune scelte, alcune decisioni, per chi è profondamente convinto di certe idee diventa difficili. Ma qui noi dobbiamo cercare di mantenere la barra dritta, dobbiamo farlo tutti quanti insieme. Quindi il mondo dell'associazionismo, adesso abbiamo fatto una nota in cui chiediamo l'istituzione dei nuclei di supporto presso le prefetture, la formulazione era generica, abbiamo chiesto al direttore, perché è stata accolta questo orientamento, di coinvolgere in maniera fissa il mondo dell'associazionismo all'interno dei nuclei di supporto dell'agenzia presso le prefetture, insieme ai sindaci dei comuni che sono particolarmente colpiti, i rappresentanti delle forze dell'ordine, Camera di Commercio. Cioè, questa è l'azione concreta, quotidiana, nella quale tutti ci troviamo coinvolti. Io credo che l'ultima frontiera, meglio, la prossima frontiera, quella che ci dobbiamo porre come prossima frontiera, perché noi non dobbiamo pensare che le organizzazioni criminali stanno ad aspettare mentre noi adottiamo le contromisure. Io sentivo le intercettazioni, i criminali dicevano: qua non possiamo stare più perché ci stanno sequestrando tutto, andiamo da altre parti. Cioè, non è che aspettano a noi. Quindi è quello una strada che già è stata iniziata, ma che secondo me è un'altra tappa strategica, è quella di una normativa europea sulla confisca di patrimonio. Io ho materialmente in gestione dei beni in Francia, oltre ai conti correnti a Piasso, i conti correnti a Vaduz e via dicendo. Allora, dove il discorso è più complicato va bene, ma dove il discorso è più semplice, cioè nell'ambito e nel contesto comunitario, deve esserci una norma comunitaria che consenta, senza troppi lacci e laccioli che di fatto vanificano l'azione la possibilità di aggredire quei patrimoni illecitamente acquisiti alla Malesia. Grazie Nunzio. Parlavi del fatto che il primo pregito di mafia fu creduto, anzi fu chiuso in un manicomio criminale, e per molto tempo si è continuato a dire che la mafia non esistesse. Mi ricordo una battuta per modo di dire di un vecchio boss, Giovanni Alberti, che diceva: ma cos'è questa mafia? Una mafia di formaggio. E pochi anni fa un senatore della Repubblica, pochissimi anni fa, che non dico il nome perché non mi interessa fare discorsi politici, però ha una villa a Sala Comacina, si chiama Marcello di nome, prima ce l'aveva Sala, durante una trasmissione televisiva, alla domanda del conduttore: ma questa mafia esiste o non esiste? Non trovo nulla di meglio da rispondere che non dire basta. Come diceva Ligio, se esiste l'antimafia, vorrà dire che esiste anche la mafia, se fanno l'antimafia, se fanno l'antimafia. Ok, prego Marco. Allora, telegrafico, 5 minuti. Io vorrei legare le mie risposte a una parola che avete usato in molti, la parola speranza. La signora prima diceva: cosa dobbiamo fare noi cittadini, o meglio, cosa possiamo fare? Io penso che nel micro possiamo fare molte cose. Parlo di una, anzi, mi interrogo: quante volte nella tua vita hai fatto qualcosa contro i malavitosi o i mafiosi? Risposta: una volta. Il caso riguarda la Fiera di Milano e riguarda il caporalato gestito dalla 'Ndrangheta alla Fiera di Milano. Viene un lavoratore, certo Mohamed, a denunciare questa situazione. Paga il pizzo, 300 euro al mese, sulla sua busta paga il caporale, noto esponente della 'Ndrangheta. Viene da noi, flagranza di reato, mensa di 1200 persone, una vecchia grande azienda manifatturiera. La DIA in borghese, Mohamed paga il pizzo, il caporale viene arrestato e portato a San Vittore. Cosa ha fatto il sottoscritto come cittadino? Sono andato, preciso informalmente, perché tenevo un figlio di 12 anni, e quindi questa era una mia grande preoccupazione, dal magistrato, certo posso fare il nome adesso, dottoressa Siciliano, e ho detto: io ho tanta documentazione, tanti indizi, però vi chiedo una cortesia, posso farlo nell'informalità. Se mi citate nel procedimento, io ho due preoccupazioni, siccome non voglio farle errore, la mia personale, ma soprattutto quella di mio figlio. La fortuna, il magistrato disse: bene, dammi tutti i materiali che hai e dammi gli indizi che hai. Come cittadino ho svolto una volta nella vita, quindi non sto facendo, come si dice dalle mie parti, lo sborone, la mia funzione di cittadino contro la 'Ndrangheta. Da questo ai comportamenti quotidiani ci sono tante piccole cose che per ragioni di tempo non sono in grado di dire, ma sicuramente secondo me possiamo tutti insieme fare. Secondo aspetto, si parla poco di sicurezza e di legalità, condivido in pieno, si parla molto di sicurezza e poco di legalità, e in questo senso la funzione educativa a tutto tondo. Faccio degli esempi: un magistrato come Gherardo Colombo, un magistrato come Davigo, dedicano grossa parte del loro tempo libero in una funzione esclusivamente educativa. Tutte le scuole medie e superiori milanesi sono frequentate da questi due magistrati, oltre che da noti penalisti, l'avvocato Mariani, magari il Comaschi non dice nulla, che svolgono questa funzione, ovviamente col corpo docente consenziente, perché non è che possono andare a fare un'azione educativa nelle scuole. E questa loro iniziativa, dal punto di vista elementare, l'evento mafioso, ha avuto grande efficacia ed è stata apprezzata anche dagli studenti. Risorse e forze disponibili. Vi do un dato che probabilmente il vicequestore conosce meglio di me. La direzione investigativa antimafia, cioè il nucleo in Lombardia dedicato all'evento, si compone di 200 unità. stiamo facendo ridere i polli. E queste 200 unità che agiscono in Lombardia sono composte, riguardano anche come, perché la direzione distrettuale di Milano non è, dico bene, la direzione distrettuale di Milano, ma è la direzione distrettuale di Milano, di Como, di Lecco, di Varese e di Busto Arsizio. Poi c'è quella di Brescia, sono due in Regione Lombardia le direzioni distrettuali. Organico a disposizione 200 persone. Sapete quante sono le aziende in Lombardia? 826.000. Difatti, faccio pubblicità a un altro testo, che in questo caso non è il testo di Paolo Moretti, si intitola Alveare. Molto interessante, leggetelo. Cosa fa l'autore? Va alla Camera di Commercio di Milano e dice: quante sono le aziende? 826.000. Poi va all'Agenzia delle Entrate, via Moscova 2, faticosissimo, ma arrivo subito al risultato. Quanti sono in organico l'Agenzia delle Entrate? 4.000. Quanto stanno in ufficio e quanti fanno l'attività ispettiva? Risposta: dei 4.000 l'attività ispettiva in più. Conclusione di questo libro che vi consiglio, l'Alveare, dice: non andate alle Seychelles o nei paradisi fiscali ad aprire una società, venite a Milano ad aprire una società, perché 800.026 aziende su base annua con un organico a malapena di 1.500-2.000 persone è il confine dell'impossibile. Curiosissimo, cosa faccio? Rifaccio lo stesso percorso, vado a prendere le statue delle aziende, vi do un dato, non faccio l'omertoso, via Dante 16 Milano, 3 metri quadri per 3 metri quadri, busso. Sapete in via Dante 16 a Milano quante aziende hanno sede legale? Sparate una cifra, 222. Non voglio denigrare l'azione investigativa, non sono un investigatore, ma nei panni di un investigatore il primo posto, il primo luogo, guardando quell'istato della Camera di Commercio dove andare a indagare, lo consiglio agli investigatori, via Dante 16. Quindi le probabilità di essere beccati sono bassissime, e non per colpa delle autorità investigative, perché l'organico è ridotto all'osso, ai minimi. Le due direzioni distrettuali hanno un totale 22 magistrati, se non erro. Siamo alla frutta, come si dice dalle mie parti. Finisco su altri due argomenti a me molto cari. Io non sono calabrese, sono abruzzese d'origine, trapiantato. Però l'Aquila, ecco, la città dell'Aquila e la ricostruzione in Abruzzo ci riportano alla 'Ndrangheta, eccetera. Voglio dire questo, racconto una vicenda, un nostro delegato, posso fare anche il nome, nativo di Rosarno, cognome Rizzitano, un classico, il padre affiliato alla famiglia Pesce, mi racconta che da bambino, quattro fratelli, il padre raduna la famiglia. La regola era questa: superati i 4 anni bisognava cominciare ad esercitarsi nell'uso della pistola, si andava sulla sila, e quindi il fatto educativo prevalente era sostanzialmente questo: imparare l'uso dell'arma. Questo nostro delegato, lo dico in pubblico, ma per un ricordo affettivo, ha conservato l'arma, ha fatto il migrante in Germania, ha lavorato all'Innocenti a Milano, De Tomaso, e poi, classico, chiuso gli Innocenti, ha fatto un muratore. Quindi ha abbandonato da giovane quell'attività, ok? E ha fatto un lavoro e una vita assolutamente nelle regole, come si suol dire. Quindi è ovvio che la 'Ndrangheta viene al nord in Lombardia, per una ragione banalissima: la 'Ndrangheta va dove c'è il business, che si chiami Expo, che si chiami Banca Intesa, che si chiami Pinco Pallo, non va dove c'è povertà, va dove ci sono quattrini e dove c'è business, è una banalità assoluta. Ultima considerazione, la permeabilità dei partiti e quant'altro. Ma vi ricordate dove è stato eletto il capo della mafia della 'Ndrangheta nazionale? Al Circolo Arci di Palermo. Al Circolo Arci di Palermo. Vi invito ad andare su YouTube, guardate i video. Il responsabile di questo Circolo Arci dice: non me ne ero accorto, guardate quei filmati, i volti di quelle persone, i Rolex, i catenacci d'oro, come non te ne sei accorto? È impossibile che non te ne sei accorto. Questo cosa vuol dire? Che la permeabilità è un vero problema, come hanno detto in molti, è un problema serio. Io non dico di fare l'eroe, mi metto nei panni di chi si trova in quelle situazioni. ma il diniego può esistere. Questo non è il luogo dove eleggere il capo della 'ndrangheta in Italia. Il circolo Arce di Paderno Dugnano non esiste. Quindi in questa banda d'oscillazione deve esistere un limite alla permeabilità, senza fare gli errori precisi, perché qui nessuno ha, come dire, vanità suicide o similari. Quindi, e finisco veramente, sul senso di assuefazione, mi ha intrigato molto il discorso fatto dall'insegnante, dico bene, di Caserta. Intrigato in questo senso, è vero che c'è un diffuso senso di assuefazione, però io penso si possa dire che, e torno alla mia funzione di genitore, quindi mi guardo allo specchio, l'insegnante ha ragione, spesso anche i nostri figli, volontariamente o involontariamente, trasmettiamo il concetto di competizione come l'unica regola più o meno valida per poter campare. Quindi o diventi competitivo o nell'arco della tua esistenza rischi solamente di perdere. Lo neghiamo pubblicamente, forse, non voglio generalizzare, non dico che tutti si comportano in questo modo, ma ogni tanto questa tentazione, io parlo di me stesso, c'è anche nelle persone che hanno rispetto delle regole. Quando si guardano in giro dicono, però, stavo dicendo un'altra parolaccia, se mio figlio non è competitivo non se la caverà. Chi rispetta le regole rischia un lento ma costante declino. Oppure, detto più banalmente, come diceva mia madre, rischia di non farsi strada in questa società. Bisogna essere competitivi. E questa è una regola che cerchiamo costantemente, ripeto, in modo più o meno garbato. Io ho assistito, mio figlio gioca a basket, ho finito. Non a livello professionistico, però siamo in zona, nelle giovanili di una società importante. Prima giocava a calcio da piccolo. Io ne ho sentite di ogni dei genitori sulla competizione. Insulti a livello inestimabile, cioè irripetibili. Nel basket un pochino meno, però la sostanza non cambia, non cambia. Non voglio ampliare il discorso. Però il sogno che il proprio figlio possa essere Michael Jordan, un futuro campione NBA, e quindi contabilizzare nel reddito familiare, ovviamente, non altro, quell'introito è un sogno che più o meno attraversa, non dico tutti gli esseri umani, ma quasi. Ecco, questa è una lotta, a mio parere, che fa parte della domanda che faceva il signore prima. Ma è vero che c'è una differenza? Non c'è differenza tra arte d'arrangiarsi e mafia? Sì, ci sono mille differenze, però io ritengo, ho finito veramente, che tutte queste piccole cose, poi, anche l'arte di arrangiarsi, il bidello di Codogno, cittadino, giornale locale che faceva le creste sulle merendine con i ragazzini, è l'arte di arrangiarsi, non fa parte della 'ndrangheta, però è la fotografia evidente di com'è conciata questa società. Quindi, insieme, condivido il messaggio di Banca Etica, possiamo fare tante piccole cose che sommate tra di loro alimentino questo filo di speranza. Grazie. Veramente brevissimo. Mi è piaciuto l'intervento di Marco quando diceva cosa possiamo fare. Nel quotidiano possiamo fare tantissimo, soprattutto con i nostri figli, educare la legalità, visto che lui ha citato suo figlio, io cito mia figlia è nata in India, ha il colore del cioccolato fondente nella pelle, e io ricordo un episodio quando era alle materne, un'altra bambina gli ha detto marocchina, dando un'accezione di insulto a quella parola. Ha detto, tornata a casa, ha detto, non capisce niente, sono indiana, perché non sapeva, e viva Dio, nessuno, non l'aveva mai sentito da nessuno, che dire, usare la parola marocchino come insulto. Ecco, Basterebbe questo esempio per far capire quanto possiamo fare noi dal punto di vista della legalità nell'insegnare quotidianamente ai nostri figli come crescere rispetto delle regole e non cercare di fare i furbi, no? Perché poi c'è questa leggenda che serve anche come salvacondotto. Noi italiani siamo, dai, ce la caviamo sempre, siamo furbi, un par de palle, basta, non siamo furbi noi italiani, siamo scemi, è diverso. Perché se pensiamo che essere furbi è la soluzione, allora non abbiamo capito niente e ci teniamo alle mafie, ed è giusto così. Problema microcriminalità, dicevi prima, no? Ti arrabbi perché si parla tanto di microcriminalità. Sono d'accordo, ma pensiamo al codice penale. Il codice penale prevede l'arresto per un cristiano che va a rubare quattro padelle nella discarica di Bregnano, ed è successo la settimana scorsa, perché è reato, e prevede il carcere, viene arrestato, non prevede il carcere perché evade mezzo milione di euro. Ecco, detto tutto, però voglio finire con due aspetti positivi, perché sennò non si esce con, cioè, sono solo messaggi negativi. E i due aspetti positivi, i messaggi positivi secondo me sono questi. Primo, questione calabrese. Orgoglio calabrese, non orgoglio calabro, l'accetto la qualunque. Il collega Francesco Filippo, che ormai ha scritto il libro, ne dà atto. Tra i migliori magistrati e uomini di legge che abbiamo in Italia ci sono calabresi. Sono calabresi quelli che lottano contro la criminalità organizzata, i migliori uomini di legge che abbiamo in Italia. E poi chiudo con questa considerazione, il fatto che comunque i criminali sono una minoranza. Noi spesso abbiamo la tendenza di avere molta paura e quindi di sopravvalutare numericamente, dico, il fenomeno. Noi siamo la maggioranza, siamo noi la maggioranza. Il fatto di essere qui oggi, mi veniva una battuta, visto che c'è Duccio Trabace, la faccio, 100 persone per gli organizzatori, 20 per la questura. Siamo la maggioranza, quelli che... Vai. Per il questore, non per il vicequestore. No, ma lo prendo in giro perché è un amico, perché no, lui almeno 35 li concede. La verità è che loro veramente sono una minoranza, quindi cosa si può fare? Pretendere di parlarne. Le persone, se sono citate spesso le persone che stanno a casa oggi pomeriggio che non sono venute qui, posso anche capirle, però se stasera si incontrano si può anche fare una discussione, parlare, affrontare il tema, uscirne, pretendere dall'azienda ospedaliera che dia una risposta e non che stia zitta. Il più grande trucco che è stato inventato in questo paese, lo vivo io tutti i giorni facendo il mio mestiere, è quello di impedire alle persone di parlare. Noi non possiamo più parlare con le persone, andiamo negli ospedali, gli infermieri, i medici non possono parlare, ci sono gli addetti stampa dove cui dobbiamo passare e le storie si perdono, si perdono le denunce, si perdono la possibilità di denunciare, di far capire cosa c'è che non va o di dire quello che c'è, che va e che funziona, le storie positive. Ecco, io penso che c'è molto da fare. E niente, ho finito e vi ringrazio perché è stata una pomeriggio meraviglioso. Grazie a tutti, ai relatori che sono intervenuti e soprattutto a voi, perché soprattutto grazie alla vostra partecipazione è stato possibile questo bellissimo incontro, anche perché se fossimo stati qua noi a parlarci addosso da soli non è che saremmo andati molto lontano. Un ringraziamento particolare agli organizzatori di questo bellissimo incontro, a Tommaso, a tutti gli altri organizzatori, a cui va un sentito ringraziamento. Probabilmente ci vedremo prossimamente, anche perché vi anticipo che alcune associazioni, tra cui il coordinamento Comasco per la Pace e l'associazione del volontariato Comasco, hanno in calendario una serie di incontri molto interessanti sulla legalità. Il primo sarà domenica 9 ottobre presso il Teatro Nuovo di Rebbio, in via Lissi. Ci sarà Salvatore Borsellino che parlerà di temi legati a Cosa Nostra, in particolare al tema dell'agenda rossa, della sparizione dell'agenda rossa di Paolo Borsellino. È un ciclo molto articolato di incontri, adesso non ve lo leggo tutto, ma sicuramente sul sito, per esempio, del coordinamento, che è comopace.org, prossimamente lo troverete, nei prossimi giorni, e ci saranno anche alcuni relatori che sono intervenuti oggi, Paolo Moretti, Fabio Silva, ci sarà anche il sottoscritto. Ecco, saranno ulteriori occasioni per fare riflessioni su questo tema. Grazie ancora a tutti, c'è Tommaso che vuole concludere. No, la conclusione è che vi aspetta un piccolo buffet con anche dei prodotti che provengono appunto dal lavoro che si fa sulle terre confiscate, per cui vi invito a scendere e a dirigere. Grazie a tutti.